Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Beh, mi sembra doveroso cominciare con questa sigla questa sera, anche se la fascia oraria non sarebbe proprio questa, ma insomma, visto la serata appunto di musica rock, totalmente di musica rock, una maratona di quasi 3 ore, se non sbaglio, assieme al mio fedele nonnetto. Ciao, ben ritrovato. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. D'agosto si fanno tante cose, sì. D'agosto si riapplica la puntata dell'anno scorso, vero Gianluca? Certamente. Allora, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino e con Maurizio Calzavaro ovviamente. Questa sera sarà una serata non dedicata al live. Domani. Ma bensì, comunque, ripercorreremo gli anni della splendida musica rock dal 1960 più o meno, fino ai giorni nostri se non sbaglio, correggetemi. Bene, ma lo faremo assieme a due, diciamo, esperti, forse dire poco, vero Maurizio? Sì, io sono... Quando trasmettiamo, quando c'è la musica rock, quando ci sono i gruppi che suonano, io sono sempre nella Fossa dei Leoni, stasera sono nella Fossa dei Leoni. Ecco, vedi, sei proprio nella Fossa dei Leoni. Esattamente. Sì. Allora, abbiamo un carissimo collega di un'altra emittente, cioè di RCS, ma lo facciamo dire a lui cosa fa, cosa non fa, cioè Gianluca Merlin. Ciao Gianluca. Ciao Agostino, ciao Maurizio. Ciao Gianluca. Cosa vuoi sapere? Sono sempre il conduttore del programma Rock Legends su Radio RCS, anche se sono un paio di mesi che sono in vacanza, perché quest'anno ho deciso di dedicarmi un po' di più alla ricerca musicale per poter poi ripartire, speriamo, insomma, meglio a settembre con il programma. Insomma, noi invece siamo qui a lavorare continuamente. Voi siete stacanovisti. Poi in agosto abbiamo fatto veramente un full immersion qui in Ma radio. Ieri sera vi ho ascoltato. C'erano quattro ragazze ieri sera. Quattro ragazze molto simpatiche. Molto scatenate. E poi, toscane. E poi abbiamo un personaggio carissimo, ci siamo conosciuti da poco, ma comunque benvenuto anche a te. Grazie. Abbiamo Fabio Pastore, ciao. Grazie mille, grazie Agostino. Parla vicino al microfono. Eccoci qua. Bene. Benvenuto anche a te, Blu Radio Veneto. Poi sei un rocchettaro, Fabio. Io sono assolutamente. Ma diciamo chi è Fabio. Ma è anche di più, è un chitarrista. Puoi presentarti, Fabio. È anche un chitarrista, sì. No, sono chitarrista da parecchi anni del gruppo Swords, che è un gruppo di Padova. Un gruppo di Padova, sì, che è nato nell'81, per cui direi che c'è stato tempo di fare qualcosa nel frattempo. Sta bolle in pentola qualcosa. E adesso bolle in pentola un nuovo disco, un nuovo album. E dopo ne parliamo, abbiamo un film mezzanotte. Assolutamente. Io so che con te c'era anche Tiziana Guerra, giusto? Sì, esatto. Magari ci sta ascoltando. 2009, può essere. La salutiamo carissima, una carissima amica mia e di questa emittenza. Certo. Ciao Tiziana. Ciao. Allora, io mi... Io e te siamo il coordinamento, dobbiamo coordinare. Però prima di cominciare lascia che diciamo i nostri dati, certo, insomma, certo. Se qualcuno volesse comunicare con noi, vi ricordo in studio il nostro numero telefonico è lo 049 875 6423, mentre se volete mandare sms vi ricordo il nostro numero per appunto chiedere qualche informazione, perché no, anche qualche curiosità, loro sono talmente esperti che vi diranno tutto quello che avete bisogno. E allora vi ricordo il 346 23 20 033. Avrete anche la possibilità di scrivere o sulla mia pagina di Facebook, cioè Agostino Spolaore, o quella della nostra emittente Blu Radio Veneto Rock Wave, oppure ancora sulla pagina di Gianluca Merlin, se volete risparmiare così i soldi, anche sulla tua pagina magari, Fabio, visto che siamo in contatto, certo. Io magari sbircerò dappertutto. Quindi se volete chiedere qualcosa a questi nostri esperti, ben felice di leggervi i vostri messaggi e le vostre richieste. Ne abbiamo già una, i Pink Floyd. Quello più avanti. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro coordinatore rock, che è Alberto Prisco. Gianluca, allora devi cominciare, devi iniziare. Io ho visto la tua scaletta e mi sono fermato immediatamente perché hai scelto i Farpoint Convention. Una cosa meravigliosa, un amore viscerale per questo folk delle radici inglesi. Certamente, è una delle, diciamo, una delle mie recenti scoperte. Scoperte. Un ascolto più profondo, perché ultimamente i dischi dei Farpoint Convention sono molto aumentati. Una ricerca dedita al recupero delle radici del folk inglese. Perché? Perché tra i vari dibattiti è sempre così vivo il discorso del rock in inglese, del perché noi facciamo sempre fatica ad assimilare il rock in inglese, no? Allora, facendo varie... Fabio, acconsentici. Ne sa qualcosa, perché anche lui... Sono andato proprio alle radici del folk inglese, proprio per capire che cos'è innanzitutto lo spirito del folk inglese, quello che è, sono i testi, le sonorità, e capisci ascoltando anche i Fairport Convention determinate cose che in Italia facciamo fatica a capire perché forse non sono nella nostra cultura. Certe canzoni dei Fairport Convention sono dei traditionals, certo, raccontano storie vere, certo, parlando con delle persone inglesi ti dicono io mi ricordo, è una cosa che tramandiamo nella nostra, certo, cultura tradizionale. Sono d'accordo con te, da queste cose qua capisci tante cose. A proposito di questo, ti interrompo un secondo Gianluca, l'altro giorno è venuta a Sorgente, e Agostino lo sa, Sorgente è una ragazza italiana al 100%, mm-hmm, però è vissuta a Cambridge, e vivere a Cambridge, città universitaria, esatto, ha un certo senso, perché vivere a Cambridge ci respira il folk. E c'è non solo a Cambridge. Beh, lei chiaramente era a Cambridge, in molte parti d'Inghilterra, sono d'accordo con te. Avendo girato l'Inghilterra, diciamo perlomeno nella zona sud, abbiamo proprio respirato. Anzi, lei è nata a Cambridge, quindi. Ecco, quindi quello poco. Noi siamo stati a Oxford, e anche lì comunque, certo, respiri, certo, l'atmosfera universitaria della città. Ma proprio è la cultura inglese, esatto, questi spazi verdi, questo ambiente. Ti rendi conto come nascono queste canzoni? E i Fairport sono proprio dentro la cultura Midlands inglese. Esatto. E ha viaggiato per la Midlands. Esatto. E Sandy Denny, che è la vocalist, la straordinaria vocalist dei primi dischi della band, fa parte. È entrata del secondo disco. Sì, però praticamente è stata lei che li ha portati al grande successo. Verso i lead più folti, sì, perché all'inizio il primo disco era molto più Jefferson Airplane oriented. Quello era molto interessante, però bisogna dire. Sì, il primo disco lo sto ascoltando, l'omonimo, e da molte influenze acide, anche perché il chitarrista e cantante, uno dei due cantanti, era Ian Matthews, chitarrista americano, che poi ha fatto grande successo negli Stati Uniti. Con Ian Matthews Comfort. Così citiamo. Ecco, poi è arrivata Sandy Denny, sì, con il suo repertorio. Ne stavo parlando prima del repertorio tradizionale. Sì. È già importante già avere un background di traditionals ripresi e riarrangiati in chiave elettrica. Sono d'accordo con te. Poi Sandy Denny era molto amata da tanti gruppi, in primis i Led Zeppelin. Wow. Sì, infatti lei è. Vedi, sei d'accordo? Wow, dice wow subito lui. È conosciuta nel pubblico rock per aver cantato come seconda voce in The Battle of Evermore. Esattamente. Quindi, Sandy Denny è un personaggio di grande personalità, è una grandissima musicista, è una che dava il tocco finale ai pezzi, secondo grande te. Vocalità. È una grande vocalista. Cosa hai scelto di Arthur Blinken? Allora, io ho scelto Who Knows Where the Time Goes, che è una stupenda ballata che fa proprio capire l'atmosfera della musica folk inglese. Benissimo, la sentiamo adesso. Cosa ok, dici? La ascoltiamo. Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know it's time for them to go. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Posso dire una cosa? Ti è entusiasmato, io... vero? Sì, no, io stavo per dire che non ho la vostra conoscenza infatti di questa musica, insomma, però confesso, insomma, i miei gusti. Io non conoscevo questo pezzo, non l'avevo mai sentito, onestamente, però mi ha veramente colpito il cuore, nel senso che mi piace moltissimo. Complimenti Gianluca per la scelta. Non è che sono di parte, dico proprio quello che penso, cioè mi piace moltissimo. Grande musica. D'accordo, sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. Da come Sandy Denny è inimitabile, sì. Non si troverà mai più una voce simile. Se non... E non solo lei, dobbiamo citare Richard Thompson. Sì, un altro mostro. Ashley Atkins. Martin Lamble nel suo ultimo disco, perché aveva morto in un incidente. Sì, vero. Batterista dei Fairport Convention. Una cucina di talenti straordinari, c'è poco da fare. Tutti grandi solisti. Tutti. Ashley Atkins, sì. Attualmente ancora in attività. Fondatore degli Steel Eyes Band, poi fondatore dell'Albion Country Band, di Shirley Collins Albion Country Band. Abbey on Dance Band, musicista solista, è venuto anche a Verona qualche anno fa, a Verona Folk Festival, no, purtroppo no. Però comunque addirittura ha suonato il basso in un disco indipendente che mi è arrivato dalle Midlands, di questi due musicisti, di cui adesso non mi viene in mente, loro si chiamano Juno e Tony, però il progetto musicale non me lo ricordo. Però io ho chiesto a questa signora, si chiama Juno, ma ho detto, ma il bassista è quello di Fairport Convention? Sì, abita 800 metri da casa mia. È veramente lui. Ma queste cose capitano spesso e volentieri in Inghilterra. In Italia capitano mai. Dicevamo prima, parlavamo proprio dell'ambiente. Esatto, proprio l'ambiente. Sì. Vedi, andando in Inghilterra, che cosa vuol dire rispetto per la natura, per il verde, quelle tipiche case vittoriane. Tutto l'ambiente fa poi la musica. L'ambiente dove si vive è fondamentale. Per è logico che se vivi in una città col cemento, con i palazzoni, non avrai mai lo spirito musicale di un musicista folk. Avrai, non so, metal, industria. Certo, punk. Ecco. E Fabio, che spirito ambientale hanno i Rush allora? Beh, i Rush hanno uno spirito ambientale molto misto e molto vario, sicuramente, per fortuna. Essendo comunque provenienti dal Canada, sono canadesi assolutamente, per cui assolutamente un paese che dà tutto in termini di natura. Ambasciatori della musica canadese all'estero sono stati nominati. Beh, ed è giusto. È un gruppo di quelli con la G maiuscola, anche perché essendo tuttora operativi e molto operativi, cioè veramente un gruppo sorprendente dalle mille vite. Non si sono mai fermati, nemmeno quando il batterista Neil Peart appunto ha subito nel giro di poco tempo la perdita della moglie e della figlia, per cui sono stati fermi un po' e poi hanno prodotto questo Vapor Trails, questo album dove lui ha dato il meglio di sé e negli anni successivi ha dimostrato di essere sempre un grandissimo, una macchina ritmica incredibile. Tu l'hai visti, no? Li ho visti dal vivo a Milano. Ho avuto la fortuna, diciamo come li hai vergognosamente visti. Diciamo devo, come li hai devo visti. Denunciare questa cosa, perché cioè, ho detto vabbè, ci proviamo questa cosa. C'era un concorso web per scrivere una frase, cosa erano per te i Rush, c'erano in palio dei biglietti e ho vinto uno di questi biglietti, visto che comunque la frase evidentemente è piaciuta, l'ho scritta col cuore perché li ho seguiti da sempre. E per cui sono preso la mia bella macchinetta e sono andato a Milano a vedermeli. È un concerto strepitoso di 3 ore con pausa in mezzo di circa 10 minuti. Quindi 10 minuti solamente in 3 ore, ragazzi. Sì, provate a capire cosa vuol dire suonare in una certa soprattutto maniera. Quando l'età comunque non è più così appunto. Verde. E la musica non è così semplice. No, assolutamente, anzi molto complessa e per niente senza energia. Cioè un'energia strepitosa, loro sono veramente dei grandi. Cioè in 3 fanno quello che altri in 6 fanno. Cioè, no, anzi no, non è che lo fanno, non ci riusciranno mai. Per cui sono impressionanti. Cioè è un gruppo da vedere assolutamente, da seguire per sempre. E il brano che avevo scelto è Earthshine, un pezzo da che album è? Dall'album Vapor Trails, che è il primo album dopo questa tragedia di Neil Peart, sì. Per cui è particolarmente indicativo. Prima di far sentire il pezzo devo portarvi dei saluti da una nostra carissima amica Gianluca che abbiamo in comune, della AG Ufficio Stampa e Comunicazione, cioè Antonella Gucci. Bravissimo, ci sta ascoltando, ha detto, ti dico subito anche il messaggio che ha scritto, dice siete mitici Gianluca e Agostino. E ci ha fatto grazie. Un cuoricino. Grazie Antonella. Ciao Antonella, un bacione, un abbraccio e buon proseguimento all'ascolto del programma di Blue Domenico, che stasera appunto è dedicato interamente alla musica rock, come dicevamo all'inizio. Adesso ci ascoltiamo. Salutiamo un momento la nostra segretaria, che tira, ma è fondamentale. Che in questo momento sta fotografando. Esatto. È la Martina. Ciao Martina, ben ritrovata anche eccola a te. Qua Martina. Allora, dicevamo Fabio? Il brano è Earthshine dei Rush. Time to think it over. Get into the void. Is this the last time that you will question my faith? This is the season of the crimson sky. I can remember the Lord upon your face. I can recall that moment in time. I tell you, my brother, fame is a dangerous thing. I can see through you, your flesh and blood. Let's say goodbye. Of the crimson sky. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Eccoci qua, Fabio. Allora, abbiamo sentito, sì, il pezzo. Sì, c'è stato. Sì, abbiamo deciso. Abbiamo fatto uno scherzo ad Agostino. Abbiamo deciso di cambiare il pezzo all'ultimo secondo. Lui non c'entra assolutamente niente come ligio regista. Abbiamo cambiato il pezzo. Assolutamente sì. Esatto, abbiamo fatto uno scherzo. Scherzo d'agosto. Sì. È stato trasmesso un brano di Green Hooks. Dall'album, comunque possiamo parlarne, voglio dire, sì, sì, sì, beh, certo. Perché eravamo così preparati sui Rush in quel momento, eravamo così gasati, cioè, abbiamo fatto tutta un'apripista, la facciamo sentire adesso comunque. Comunque dicevi di questo pezzo, Fabio? Sì, hai tutti i dati lì, perché adesso io non c'ho più la playlist davanti. Comunque l'album è From Now On, sì, è uno dei suoi album solisti. Green Hooks, noto personaggio, soprattutto ai cultori dei Deep Purple, esattamente. Ma ha suonato anche in una grandissima band che si chiama Trapeze, sì, assolutamente, dove sì, ha suonato anche un futuro batterista di Judas Priest, dove quando Green Hooks è entrato comunque nei Deep Purple è stata mitica la gelosia di David Coverdale, perché ha sentito che era entrato comunque un cantante strepitoso, un cantante, cioè, che era solo un bassista, ma teoricamente Richie Blackmore voleva solamente Green Hooks, ma il produttore ha detto, il manager ha detto no, ci deve essere il cantante, vabbè, perché l'immagine. I Deep Purple sono in cinque, quindi ci vuole, certo, il cantante, certo. Beh, per carità, qui Hughes farà la seconda voce, David Coverdale farà la voce una solista, signorissima seconda voce. È veramente strepitoso Green Hooks, per cui mi sembrava giusto metterlo in questa playlist come omaggio a un personaggio del genere. Che poi mi dicevi è stato il suo compleanno due giorni fa. Sì, un paio di giorni fa è stato il suo compleanno. Gli abbiamo fatto gli auguri. Così. Bene. Poi ieri. Vedi, ci aggiungiamo. Vedi che era giusto partire con questo. Mi pare. Cioè, quello che fate voi è cultura, tutti devono saperlo. Io sto seguendo una grande lezione stasera, dice Antonella. Io gli ho risposto, allora prenditi 3 ore di tempo libero, perché insomma sarà una serata lunga di rock, di musica rock e soprattutto di cultura, con questi due mostri sacri. Beh, cosa facciamo? Ma ci mettiamo anche te in mezzo. Facciamo via. Sentire i Rush subito. Sì, facciamo, sì, sentire i Rush a questo punto. Okay. Allora, Rush, Earthshine il pezzo, dall'album Vapor Trails. Vapor Trails. Giusto? Sì. L'artista appunto sono i Rush. Circles. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 21:33 di questo mercoledì 22 agosto 2012, un'estate caldissima, ma abbiamo anche la musica caldissima con questi esperti che ci stanno raccontando un po' la storia della nostra cara amata musica rock in versione però disco, non live, quindi assolutamente tutti i pezzi estratti da CD, e invece il live sarà, appunto, come ricordava Maurizio prima, domani sera alle ore 21. Abbiamo Gianluca Merlin e Fabio Pastore con ospiti con noi, ovviamente con me c'è Maurizio, ma soprattutto io sono con Maurizio, io sto ad ascoltare, apprendo, mi faccio una cultura di musica rock e di notizie soprattutto, insomma. Maurizio, devi aprire. Perché sono abituato a chiudere il microfono, adesso devo aprirlo. In ogni caso, Gianluca ha portato una cosa meravigliosa, perché hanno anni che non li sentivo più. E sarà stato l'Inghilterra, sto giro in Inghilterra, questo fantasma benevole e gentile che ti segue da un po' di tempo. È stato il destino si chiama Small Faces, assolutamente. È un gruppo che non ci immaginiamo neanche, in Inghilterra è amatissimo. E in tutte le tre le volte che siamo andati in Inghilterra, gli Small Faces mi si sono parati davanti. E c'è poco da dire, guarda, in radio li ho sentiti, nei negozi di... nei giornalai mi è capitato in mano questo non si può vedere, siamo in radio, ma lo sto tenendo in mano, questo giornale per elettromagnetici Shining, in copertina ci sono gli Small Faces, perché quest'anno ci sono state, non a caso, le ristampe dei quattro dischi degli Small Faces in edizione Deluxe Edition, per cui dovevano essere in scaletta l'anno scorso, li ho riportati quest'anno perché sono uno dei miei gruppi per eccellenza, nel senso sono una sorta di culto privato, uno di quei gruppi che quando non hai niente in testa ti girano. Esatto. Ti girano, nel senso che ti girano in testa la musica. Certo. Positivo. Sia te sia Fabio avete parlato di ambiente e i Small Faces erano i cosiddetti mod, vi ricordate i mod? Come no. Tra le band, emblema. Mod, esatto, i mod... Assieme agli U, insomma. Ecco. Esatto, gli U erano nella parte, i Small Faces quella orientale, mentre gli U quella occidentale, quindi era una cosa... Precisamente da Shepherd's Bush. Esatto, precisamente. Nel 2009 sono passato da Shepherd's Bush. Hai visto? Tu arrivi a Shepherd's Bush, che è un classico quartiere popolare, dove adesso... ovviamente è multietnico, certo. E poi arrivi a Chelsea. Esatto. Cioè, c'è questo confine tra il quartiere popolare e il quartiere ultraricco. Chiaro, cioè, quindi sì. Vedi questo impatto tremendo a Londra, c'è questa discrepanza tra il quartiere popolare e subito dopo il quartiere, voglio dire, boemiano, ottocentesco, ancora con le case vittoriane fatte in una determinata maniera per gente, insomma, ambiente. Certamente. Quindi Small Faces, cosa avevano rispetto agli U? Gli U erano più provocanti e più rozzi, secondo me. I Small Faces erano più intellettuali della musica. Dal vivo però anche gli Small Faces davano una grande molta carica, forza. Però dal punto di vista proprio di costruzione musicale erano molto più... Allora, la prima fase degli Small Faces è molto più rhythm and blues. Quindi il primo in assoluto, sì, il primo album sì, sono d'accordo con te. Poi con il passaggio alla Immediate, l'etichetta... Ricordiamo l'etichetta Immediate, di chi era l'etichetta? Andrew Goldham. Appunto, e chi era Andrew Goldham? Manager e produttore dei Rolling Stones. Esattamente, ha guadagnato un po' di soldi recentemente lui col riff di, ti ricordi, il gruppo inglese Beatles Symphony. Esatto, un po' di soldi, leggermente un po' di soldi, tutti i royalties praticamente della band. È uno che sapeva fare gli affari, come tanti affari. Manager dell'epoca sì. Che facevano stipulare dei contratti capestro. Molti non lo sanno, magari idolatrano i grandi del rock, ma questi devono sapere che negli anni 60 certi contratti erano fatti in maniera che sì, l'artista prendeva i suoi soldi, ma i soldi con i concerti. Certo, c'erano qualcosa del disco, gli stessi Beatles. Sì, in particolare no? o i primi Who con Shel Talley. I primi Who, esattamente. Quindi... Per cui gli Small Faces sono stati in un certo senso... anche gli U a un certo punto, perché con la rock opera Pete Townshend, però gli Small Faces, come dicevo prima, in Italia sono discretamente meno noti, sono certo. Meno menzionati, e sì che hanno come leader Stevie Marriott, che è uno degli artisti più sottovalutati della scena musicale inglese. Sarà un artista fenomenale, sia negli Small Faces e poi negli Humble Pie. Certo, purtroppo seminali Humble Pie, con Peter Frampton e poi Clem Clempson. Esattamente. E oltre agli Small Faces troviamo anche Ian McLagan, il tastierista ancora vivo, produttore poi anche certo. Di altri gruppi, Kenny Jones, batterista, che poi suonerà anche lui con gli U. Esattamente. Erano amici, certo. Non è che la rivalità era una questione solamente hanno di... fatto un tour insieme, esatto. In Nuova Zelanda, immagine anche per vendere determinate cose. E poi c'era Ronnie Lane, bassista alto, Small grandissimo Faces da solista, e poi purtroppo anche lui è una band sfortunata, Small Faces. Sì, metà degli elementi purtroppo sono morti. Ronnie Lane è morto di sclerosi multipla nel 97, dopo 10 anni, no, 20 anni. 20 anni, 20 anni, 20 anni esatti di malattia, certo. Di cure, terapie, e recentemente, visto la passione degli Small Faces, su un DVD proprio della serie British Invasion, una serie inglese che mi sono fatto arrivare di import, c'è l'ultima intervista dell'88 di Ronnie Lane, già malato di sclerosi multipla. Dalla sua morte, o comunque dalla sua malattia, nascerà il famoso ARMS, che è il benefit organizzato da Eric Clapton per raccogliere fondi a favore di Ronnie Lane. E Stevie Marriott, che è morto veramente come una rockstar. Come una rockstar. Bruciato vivo nel suo cottage ad Atkers, nell'Essex. Ci sono ancora questi cottage con il tetto di paglia. E sono molto, come dire, sono molto regolamentati, non puoi portare sigarette, queste cose qua. È una cosa che è successa anche a Keith Richards, ma è stato fortunato. Purtroppo Stevie Marriott è tornato a casa, queste sono parole di Ozzy Osbourne, ubriaco fradicio, aveva la sigaretta accesa e via. Si è addormentato con la sigaretta accesa, potete detto immaginare, detto da Ozzy ha un valore veramente paradossale, ed è stato l'episodio che lo ha fatto ragionare e dire: devo mettere la testa a posto, forse. Ma insomma, comunque, insomma, da quel momento lì ha capito che non poteva continuare ad andare avanti come andava avanti Rozzy fino agli anni 90, insomma, gli anni 90. Di questo disco del 67, un anno fondamentale, che è Small Faces, della Immediate, il primo disco della Immediate che ha permesso agli Small Faces innanzitutto di essere più creativi, l'hanno detto loro stessi, ma anche di sperimentare le nuove tecniche di registrazione. Il brano che ascolteremo, tratto da questo disco del 67, è uno dei preferiti di Ian McLagan, ma probabilmente anche degli altri Small Faces, certo. E si intitola Tin Soldiers, è il primo brano in cui gli Small Faces sperimentano la registrazione a 8 piste. È vero. Citiamo questo, diciamo che cosa vuol dire registrare 8 piste e cosa si registrava prima, che erano 4 piste. Oggi si registra probabilmente a quante piste? A multipista. Oggi non cosa dici, Fabio? Direi proprio di sì. Tu che sei un esperto di registrazioni, se ne sta facendo qualcuna adesso. Ma fino al 67-68 si registrava su 4 piste. È su 4 piste, esattamente. Jimi Hendrix si registrava su 4 piste, ma poi gli premixavano le piste per liberarle. Esatto. 8 piste significava che, oltre agli strumenti musicali, potevi registrare qualcosa di più. Chiaro. E quindi Tin Soldiers, come ha detto Ian McLagan, è stato il primo brano dove hanno potuto raddoppiare il suono degli strumenti. È un suono particolarissimo questo di Small Faces, proprio è un suono molto interessante anche come costruzione, come sonorità, psichedelico a tratti. Pop psichedelico, e sarà il preludio al famoso Hot Guns Not Gone Flake. Ricordiamo come è fatto questo disco, che visivamente il successivo disco di Small visivamente Faces molta gente lo conosce. Fu creato ad arte proprio per diciamo fare un po' il verso a Sgt. Pepper. È vero. Perché la copertina era rotonda. È vero. E all'interno avevano una serie di immagini, di fotografie. La copertina fu realizzata grazie ad un catalogo che fu richiesto da Andrew Goldham a una ditta, se non sbaglio, di Brodo, mi sembra. Sì, o comunque una cosa simile. Che aveva ancora queste stupende immagini vittoriane che si facevano sulle scatole di metallo. E questa cosa stimolò la fantasia, nacque questa copertina molto psichedelica, e poi le immagini all'interno sono state realizzate dai grafici dell'epoca, che erano parecchi nell'ambito della scena musicale rock, perché molti dei musicisti che ruotavano nell'ambiente musicale rock avevano frequentato l'Accademia d'Arte. Anche c'era uno che l'aveva frequentata, quello che aveva fondato i Pink Floyd, un po' di certo Syd Barrett, ma anche gli altri, ma anche lui soprattutto. Ok, sentiamo il pezzo allora, cosa dici? Tin Soldier. We'll be right back. whispered hello, smiles melt in the snow. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Che bello, vedi? Sei d'accordo che era proprio sono bello? Penso, favoloso! Un brano di grande trasporto. Più che altro se si pensa a quanto tempo è passato. 67, devi tenere conto, 67. Incredibile. Cioè 30, 45 anni fa. Fabio diceva una cosa giusta, Fabio è un musicista, quindi diceva che non c'è più sofferenza. No. Adesso non c'è più, c'è tutto. Senti, loro soffrivano. La carica che c'era in questo pezzo qua e coi suoni dell'ora del 67 era impressionante. Esattamente. Adesso possiamo giocare con quello che vogliamo, la dinamica, la perfezione. Però non c'è più questo sangue, questo groove, sudore, questo groove. Esatto. È molto raro da trovare, pur avendo tutti i mezzi possibili e immaginabili. Sì, ma possiamo utilizzare tutti i mezzi che vogliamo, ma questa musica, questo suono che veniva da di dentro, non l'abbiamo più. Cosa dici? Ma forse perché era registrato anche, non dico in presa diretta, ma comunque con senza bisogno di tutte queste cose tecnologiche che c'erano oggi. Esattamente. Con i nastri. Sì, con i nastri. Quindi dà anche un suono più certo. Caldo, ma poi comunque con i musicisti tutti o quasi tutti all'interno di uno studio. Esatto, erano tutti là. E poi c'era anche Pippi Arnold. Citiamo, diciamo chi la è corista di questa cosa. Diciamo chi è Pippi Arnold. Cantante io americana. Io avevo una certa età. Gli occhi verdi dell'amore, te li ricordi, Agostino? Certo, come ecco, del Renato dei Profeti. È un pezzo di Pippi Arnold, ragazzi. Renato dei Profeti ha tradotto Gli occhi verdi dell'amore. Così. Gliel'hanno tradotta meglio. Gliel'hanno tradotta. Perché una volta c'erano i traduttori. Di Pippi Arnold, era una voce meravigliosa. Una ragazza che stava bene dentro i Morphesis. Perché i Morphesis erano creativi al 100%. Ma amavano comunque anche la musica soul. Certo. Come tutti i mod. Sì. Esattamente. Grande anima. Bene, adesso passiamo a Fabio, che è un'anima diversa, ma è sempre un'anima anche lui, musicalmente parlato. Ma io apprezzo un po' tutte le anime, questo è fondamentale dirlo. Adesso ho scelto un brano delle Heart, le sorelle Wilson. Ottime cose, musicalmente parlato. Anne e Nancy Wilson, con questo brano che è un po' il loro inno, alla fine uno dei loro successi in assoluto, che è Barracuda. Cioè, il nome l'anno scorso tutto. Avevamo sentito Magic Man. Beh, vedi, per fortuna non è lo stesso. È stata leggermente cambiata. Abbiamo scelto questo brano un po' più. Come è stato le Heart? Un gruppo abbastanza. Che qualcosa ha attecchito anche in Italia, non moltissimo, qualcosina. Qualcosa, sì. Però loro hanno attecchito in Italia forse più negli anni 80, sì, quando hanno fatto un po' dei successi più, tra virgolette, un po' più trendy, più modaioli dell'epoca. Si erano anche un po' trasformate. Però secondo me la qualità dei loro primi due album è un po' difficile da trovare dopo. E poi la qualità della voce, ragazzi, cioè Anne Wilson ha una voce strepitosa, cioè ti incanta appena la senti, poi la vedi ancora meglio. All'epoca, bravo Gianluca, ha aumentato qualche chiletto, diciamo di sì, però vabbè, comunque la sorella si tiene ancora molto bene. Sì, va bene, questa era una digressione assolutamente estetica che fa parte, che fa parte. Sai che in Italia ci teniamo più a volte a queste cose che non purtroppo l'ambito musicale. Quindi Barracuda delle Heart. We'll be right back. Le Heart, caro Agostino, un gruppo notevole, cioè Le Heart, cioè sono due ragazze praticamente, ma erano due ragazze, beh, all'epoca erano due ragazze, però e brave. Magari nello spirito lo sono ancora due ragazze. Sicuramente sono ancora, musicalmente erano concerto. Ben sostenute, non si tiravano mica il freno, anzi, davano un acceleratore. La canzone Barracuda in particolar modo, la linea di basso, se sentite bene, assomiglia moltissimo a quella di Achilles Stand e Led Zeppelin. Hai ragione. Se c'è un riferimento. Sì, ci sono stati parecchi riferimenti alle Zeppelin. Non a caso negli anni 80 hanno ripreso una loro versione di Stairway to Heaven. Ah, vedi, quindi è già positivo. Adesso torniamo leggermente un po' indietro, perché proprio qualche giorno fa purtroppo se n'è andato Scott McKenzie, che molti ricordano come interprete di San Francisco. Il grande pezzo Flower Power. Sì, proprio tipico del momento dei fiori, rifatto anche da Bobby Solo. Sì, purtroppo l'ha rifatto anche lui. Sì. No, beh, oh, grande stima per Bobby Solo. L'hanno rifatto in tanti. L'ha rifatto anche Bobby Solo nel 67. Lo conosciamo probabilmente per la versione di Bobby Solo. Eh sì, purtroppo in Italia lo conosciamo solo per quello. Come tante altre versioni di canzoni. Esattamente. Che conosciamo magari più per le versioni italiane che non magari per le versioni straniere. Cioè, ho detto purtroppo, perché io ricordo la versione di Scott McKenzie, chiaramente. Questo è il purtroppo e questo è il motivo. Perché in Italia, giustamente, come diceva Gianluca, tanti pezzi americani o inglesi sono arrivati con le versioni in italiano, le cosiddette cover. Perché era la moda, non era la moda del momento, diciamo. Era così, te lo imponevano le case discografiche. Esattamente. Nonostante tutto, ci sono stati anche dei gruppi che hanno scritto delle canzoni proprie. Basta pensare ai Giganti, ai Kings e a tanti altri nomi. Poi è arrivato il pop italiano progressive e lì. E poi le cose sono cambiate notevolmente. Per un periodo, ma sono cambiate, insomma. È vero. Diceva, a proposito di questo, delle cover, diceva in una vecchia intervista, forse abbiamo citato qualche altra volta, Vandelli, il principe. Dobbiamo citare il principe Vandelli, che lui sentiva i pezzi a Radio Lussemburgo. E li copiava. Questo è il motivo. E così si faceva una volta. I dischi arrivavano molto più tardi in Italia. E poi c'erano sempre la diatriba delle royalties. Esatto, c'era la diatriba dei royalties. Perché all'inizio degli anni 70 molti artisti stranieri o comunque molte case editrici straniere scoprirono che... Filmava tutti i Mogol praticamente. Sì, li traduceva quasi tutti i Mogol e probabilmente ha fatto anche parecchi... Sì, esattamente. E quando hanno scoperto non hanno più dato le certo, le non venivano italiane, perché perché le edizioni italiane guadagnavano quasi il doppio delle edizioni straniere. È vero, c'era questo discorso molto interessante, non per gli stranieri, molto interessante per gli italiani. Purtroppo è stato c'è un dibattito che è stato fatto su Space Oddity di David Bowie. David Bowie registrò Space Oddity in italiano, certo, però se il testo originale era la storia di un astronauta, certo, perso nello spazio, chiaro, in italiano divenne Ragazzo solo, ragazza sola, storia di sole, cuore, amore. È una vecchia storia, insomma, ecco. Anche adesso non è mica male, anche se lui si sforza a cantare in italiano, si sforza. Però se chi l'ascolta la prima volta rimane sconvolto, insomma, ecco, ho sentito dei commenti un po' però sai, sconvolti, insomma. Così, insomma, per uno che canta in inglese, cantare in italiano penso sia solo da ammirare, insomma, la buona volontà che ci ha messa, insomma, quantomeno. Insomma, però si sente la sfogliatura italiana. Vabbè, e questo è chiaro, Gianluca, però insomma uno ci prova e poi esce quello che esce, ma anche noi italiani, se cantiamo in inglese, spesso e volentieri per un inglese risultiamo un po' così, insomma. E dipende sempre dal discorso, se sai bene cantare l'inglese, certo. E beh, lo spirito, insomma, come dicevamo prima, lo spirito. Ma credo che sia molto più facile cantare in inglese per un italiano che non per un inglese cantare in italiano, perché la loro musica è diffusa in tutto il mondo. A proposito di questo, del discorso dei soldi, dei guadagni, buon Claudio Rocchi, che abbiamo intervistato l'anno scorso, lui ribadì questo, che si fece un sacco di soldi, nel senso, prese parecchi soldi con la traduzione di un pezzo di Creedence Clearwater Revival. Lo tradusse lui, perché c'è stato un episodio, la casa discografica, qualcuno invitò Claudio Rocchi, che lui sapeva bene in inglese, a tradurre il pezzo. E ha preso un sacco di soldi, è stato molto contento all'epoca, tradusse un pezzo famoso di Creedence. Purtroppo in Italia abbiamo sempre questa cultura della catena di montaggio, esattamente, cioè del considerare la musica un qualcosa di usa e getta, o comunque di qualcosa di frivolo. Anche se la traduzione di Rocky è un musicista molto serio. Sì, no, ma voglio dire, ne parlavamo con un batterista che vive a Milano, che si parlava appunto di uno dei membri degli Area, sì, che è, adesso non mi viene in mente, Patrizio Fariselli, sì. Patrizio Fariselli lo ha conosciuto molto bene, cioè ci sta collaborando, e lui diceva, siccome è andato a trovarlo da Varese, e allora a Varese Patrizio Fariselli è una signora villa, no? E ha detto, ma caspita, ha detto, Cogliari ha fatto tanti soldi. Lui gli fa, cosa? No, non ha fatto i soldi Cogliari. Dormivamo a Leoncavallo con i materassi, e dei soldi li ho fatti perché un giorno ho composto una sigla per la Rai. Questa sigla è andata in onda un sacco di mesi, e quando mi è arrivato il cedolino SIAE, ma ho telefonato alla SIAE, ma qui c'è un errore, non può essere la mia canzone. No, è proprio la tua canzone, che è andata in onda talmente tanto che ti è arrivato tuo cedolino SIAE. È un altro episodio. Non se l'è fatto dire due volte, ha comprato la via. Certo, è un altro episodio simile, sempre con gli Are. È brutto, da dire. Uno degli Are non ha scritto un famoso cartone animato, con la sonora di un cartone animato. Potrebbe essere anche Fariselli. Non so se sia Fariselli o Ares Tavolazzo, non mi ricordo. Bene, uno degli Are ha scritto Mazinga, mi pare, quindi ha collaborato alla scrittura di questo pezzo. E giustamente, come diceva Gianluca, gli Ara facevano la fame, non era un gruppo, cioè, c'è anche un filmato del 1978 dove appunto Demetrio Stratos diceva, io devo collaborare con l'Università di Padova con degli studi sulla voce, altrimenti non riuscirei a vivere. È verissimo, è una cosa sacrosanta, non si vendeva, cioè il gruppo come gli Ara è talmente importante ma talmente poco Ma sai qual è stato il problema? Ne parlavamo con un amico di Torino, che purtroppo alla fine degli anni 70 il declino di una certa musica di cultura è stato dovuto a un problema di politicizzazione, cioè del fatto che determinate frange si sono impadronite della musica quasi sequestrandola, e questo ha purtroppo portato a un degrado dal punto di vista, cioè determinata musica veniva indicata a livello politico, certo, veniva indicato, questo come purtroppo ha danneggiato con quella colorazione, ho capito, sì. Poi sono arrivati i giapponesi, hanno ristampato i dischi della musica progressiva, ragazzi, li hanno scoperti loro e noi di riflesso ci hanno rivenduto la musica nostra. A proposito di questo, mi diceva proprio al telefono prima di cominciare la trasmissione, ti ricordi Jumbo, che era un gruppo prog milanese, che i giapponesi continuano a telefonare al leader di Jumbo dicendo, ma perché non vieni a suonare da noi? Non esiste più la band perché il batterista se n'è andato. Continuamente invitano la band Jumbo, che è defunta musicalmente da un sacco di tempo, a andare a suonare in Giappone. Perché in Giappone è un mercato. Yabu Savantra. Esatto. Yabu Savantra. Recentemente, appunto, parlando con l'amico Salvatore Ursus di Torino, i No Strange, che sono un gruppo storico della scena torinese, adesso fanno una musica tra psichedelia e krautrock, comunque molto esotica, faranno una tournée di 2-3 date in Giappone. Vedi. Ma signore date, voglio dire, qui in Italia devono suonare a Torino. C'è poco da fare, i giapponesi, la prog in Giapone ha avuto non un solo discontro. Il prog, è una questione di mentalità. Sì, ecco, è vero, probabilmente qui. Di aprire la in Italia non abbiamo questa mentalità aperta, non capiamo che altre culture hanno altri modi di vedere rispetto alla nostra. E noi invece siamo chiusi, molto probabilmente anche per quello non riusciamo ad imporre più o comunque ad apprezzare quello che magari non è nelle nostre corde, proprio perché siamo chiusi musicalmente. Certo. Ma parliamo a livello di tifoseria. Certo, ma San Francisco era sulle corde di tutti, adesso lo sentiamo. È okay? Un pezzo storico. Esattamente. Prima però alcune informazioni, cioè penso che riguardi soprattutto Gianluca, che sono sue amiche. Sue fans, cioè Tiziana Flavioni dice... Grande Tiziana, Linda saluto. E io ci siamo, baci. E quindi ti saluta, insomma. Ci ascoltano da Rosignano sul Vè, provincia di Livorno. Ah, ecco. Bene, ecco. Bene. Che era quella che ci ascoltava anche ieri sera, se non sbaglio, giusto? Tiziana sì. Sono stata grazie al sottoscritto che ha ascoltato voi. E poi c'è Linda, che è la figlia, che è anche batterista, suonato nelle Triacorda, un gruppo milanese, e adesso attualmente suona in vari gruppi, è una grande fan del Progressive, oltre che ex allieva di Walter Calloni. Ah, grandissimo batterista, ecco. Grandissimo. E poi ancora... Te lo dirà casomai Linda. E poi ancora un saluto da Paolo, che ci sta ascoltando dalla provincia di Reggio Emilia, e dice vi sto ascoltando per un po' di disco da sentire. E poi ancora una precisazione, dice Antonella, confermo, Tavolazzi ha suonato un sacco di sigle dei cartoni animati, tra cui UFO Robot. Vedi. È coautore della sigla finale sempre di UFO Robot. Vedi, per quello si è fatta la villa anche lui. Antonella, ci vogliamo qui una sera, vieni a trasmettere anche tu qui con noi, va bene? Ti aspettiamo. Me l'hai promesso poi, tra l'altro, oltretutto. Va bene, allora ci ascoltiamo questa San Francisco di Scott McKenzie. Ok. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna SMS 346 2320 033 Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Hai avuto una bella idea, Maurizio. Ci scrive un'ascoltatrice, dice: questa canzone è per sognare, grazie di averla messa. Sì, per ricordare un musicista molto, molto bravo, molto valido, interessante. Diciamo una cosa, io e Gianluca abbiamo parlato mentre il microfono andava e il pezzo andava. Questo è un pezzo di John Phillips, che era il leader dei Mamas and Papas. L'album l'aveva prodotto John Phillips, l'aveva scritto tutti i pezzi di John Phillips. John Phillips era una comune, il potere dei fiori, era proprio una comune musicale che era catalizzata dai Mamas and Papas. Però era lui che scriveva tutti i pezzi lui. Michelle Phillips in un'intervista ha detto che era talmente bravo che riusciva a orchestrare le armonie vocali dei vari pezzi. Dei vari era pezzi. Bravo soprattutto a orchestrare, una cosa che oggi purtroppo si sente pochissimo, non si sente più. Esattamente. Una volta, è una cosa che ripetiamo sempre, no? Che una volta c'erano dei gruppi dove i cantanti erano più di uno. Sì, vero, verissimo questo. I Move, certo. Nell'ambito inglese, abbiamo sentito gli Small Faces, a parte Stevie Merritt, comunque oltre a Stevie Merritt cantava anche Ronnie Lane, certo. Nei Fairport Convention c'erano cantanti appunto, e tanti altri, poi certo. Ne sentiremo ancora, sì, chiaramente. E per fine il discorso su John Phillips, dentro ai Mamas and Papas c'è la voce meravigliosa di Mama Cass, te la ricordi Mama Cass? Era l'extra large del gruppo, una ragazza ben messa ma con una voce meravigliosa, assolutamente meraviglioso. Prima di Mamas and Papas aveva fatto un disco con Yoma Kaukonen. È veramente, hai detto una cosa bellissima, è verissimo questo. Yoma Kaukonen, altro guru, altro Genesis, ve lo ricordate ragazzi, Genesis, un pezzo favoloso scritto da lui, ti ricordi Genesis? No, non era di Genesis Yoma Kaukonen. No, Genesis, pezzo Genesis scritto da Yoma Kaukonen, te lo ricordi? Nei Jefferson Airplane. Con l'album qua, ti ricordi l'album qua? Che era quello dei Yoma Kaukonen da solista. Ottuna. No. Sì, Ottuna, perfetto. Ottuna. Genesis è un pezzo scritto da lui. Stiamo arrivando, abbiamo parlato di Jefferson Airplane, e certamente. Beh, Yoma Kaukonen, hai citato Yoma Kaukonen, va benissimo. Adesso citi un album molto interessante. No, aspetta, devo citare, vi porto ancora saluti. Dice Linda, grazie Gianluca, complimenti per la trasmissione, favolosa. E poi ancora San Francisco, bellissima, la ballavo da ragazzina alle feste in casa. Madonna, com'ero piccola. Fa la risata, insomma, ecco. Bene, San Francisco ha scosso le memorie, belle memorie della gente. Le belle canzoni durano sempre. Certamente. C'è poco da posso dire. Approfittare di questo spazio così, certo. Facciamo ascoltare una canzone. Ah sì, è vero, dobbiamo fare sentire un pezzo, sì. Dei Pink Floyd. Sì, allora, così ne approfitto per salutare un caro amico, Jan Plinski si chiama il suo nome d'arte, lui è un amante dei Pink Floyd, appunto ci ha richiesto questa canzone. Io ne approfitto anche per fare pubblicità per un splendido concerto che si terrà sabato prossimo a Marola di Torri di Quartasolo, qui in provincia di Vicenza, dove suoneranno i Wit Matrix, che sono una band che praticamente è quasi ufficiale, diciamo, anche se loro non voglio che dica così, insomma, dei Pink Floyd. Hanno una struttura gigantesca, pazzesca, suoneranno dal vivo, sono 11 personaggi sul palco, due batterie, una parete di percussioni, pianoforte a coda, organo, tastiere, poi c'hanno il sax. Insomma, è uno spettacolo assolutamente imperdibile e loro appunto fanno solo esclusivamente la musica di Pink Floyd e la fanno quasi come se fossero loro, quindi è una cosa fantastica per chi ama questa band, credo sia doveroso una visione di questo splendido concerto. Io ho scelto una canzone che forse è una delle più rappresentative, una delle più belle, si chiama Wish You Were Here. C'è qualcuno che vuol dare qualche informazione su questa canzone? Noi abbiamo citato Syd Barrett, già citando Syd Barrett si dice tutto, cosa dici? È una canzone, diciamo che tutto quel vorrei disco, tu fossi qui, sai, è tutto dedicato anche a lui. Se, vagamente, si sa che comunque durante la registrazione di Wish You Were Here lui a Parì, sì, anche abbastanza ingrassato, un po' perso. Era, diciamo, già perso, era già perso all'inizio lui, si era perso subito. Sì, ce ne sarebbe da parlare, sì, perché certo. Ho letto delle cose abbastanza sconvolgenti. Comunque, come dire, questo disco era nato come un disco sul tema dedicato all'assenza. E poi è arrivato Syd Barrett improvvisamente e il disco ha preso una determinata piega, insomma, ecco. Ok, lo sentiamo adesso. Ok. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on part in the war for a lead? Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Io sono curioso e voglio sentire anche il parere di Fabio sui Pink Floyd. Pink Floyd fanno parte del DNA, cioè ci cresci assieme, li ascolti, li segui, li ami e basta. Cioè, Pink non Floyd, c'è un altro da dire. No. Sono un fluido, appunto. È un fluido rosa, per niente. Bene, adesso passiamo a un'altra cosa che io reputo molto interessante. Erano anni che non sentivo più questo disco. Io ti ringrazio di averlo scovato dalla tua enorme raccolta. 1990, copertina meravigliosa. Parliamo dei Ride, cari ragazzi. È un gruppo o care ragazze che ci sentite stasera. È un gruppo purtroppo poco conosciuto, almeno in Italia, o comunque conosciuto di riflesso grazie a uno dei membri della band. Che si chiama? Andy Bell. Esattamente. Attualmente chitarrista dei BDI. Che prima era chitarrista? Era bassista degli Oasis. E poi prima ancora? Gli Hurricane, sì, un gruppo di culto della scena. Altro gruppo di culto interessante. Ma qui stai già andando oltre. Sì. In Italia stai già andando oltre. Parliamo dei Ride. Devi dire che Andy Bell comunque oggi nei BDI. E già dai. Abbiamo chiuso il cerchio. Ecco, poi dei Ride. Io dei Ride li ho scoperti alcuni anni fa, perché a Verona venne a presentare il suo disco solista Mark Gardner. E nel programma c'era proprio questa cosa, che lui era il leader dei Ride. Poi un giorno ho scoperto questo disco, Nowhere, che è il disco, diciamo, più famoso, diciamo, dei Ride, e l'inizio di una nuova era musicale in Inghilterra, perché prima venivamo dagli Smiths, venivamo dai suoni, dalla New Wave, band. Quindi tutto quello che è stato dietro gli Smiths, la Dark Wave, e i Ride assieme ai My Bloody Valentine, soprattutto ai My Bloody Band, Valentine, quelli hanno ai Lush, a tanti altri gruppi di slow dive, riuscivano a dare questa nuova particolare sonorità all'Inghilterra, che veniva chiamato shoegaze, perché sfruttava, diciamo, le sonorità della chitarra stratificate, che davano questa sensazione quasi di eterico, sì, eterico, la musica catartica. Esatto. Però i Ride erano più, diciamo, orientati verso gli anni 60, sì. Forse anche per quello che li ho scelti. L'anno scorso ho scelto i Lush perché c'è stato un momento in cui sono rimasto quasi folgorato da questa band. Adesso è importante ascoltare questa band per riscoprirla, da questo disco che si chiama appunto Nowhere, che, ripeto, è una copertina bellissima, sì, è bellissima. Quest'onda che, secondo un critico musicale, è stata quell'onda di riscossa dell'Inghilterra dopo il momento in cui la Thatcher aveva quasi schiacciato quell'Inghilterra. Con John Major si disse l'Inghilterra cominciò a risorgere, e in un certo senso è vero, perché se ricordiamo l'Inghilterra degli anni 80 ci viene subito in mente gli hooligans, i sobborghi, sì. C'è un bellissimo film che è venuto fuori, che consiglio, che si intitola, adesso non mi ricordo la storia, di quel ragazzino che viene adottato dagli skinhead, che è un po' la fotografia dell'Inghilterra degli anni 80. E poi negli anni 90 la grande risurrezione dell'Inghilterra, fino ai giorni nostri, l'abbiamo visto nelle Olimpiadi. Certo, certo. Non c'è altro da dire. Possiamo già sentirci la canzone, che si intitola Vapor Trail, è uno dei pezzi più belli, videoclip stupendo, che è ispirato a Jackson Pollock, alla pittura di Jackson Pollock. Ok. First you look so strong, then you fade away. The sun will blind my eyes, I'll love you anyway. Thirsty for your smile, I'll watch you fall. Oh, dobbiamo ringraziare Gianluca di aver scelto questo pezzo di Ride che io ricordavo, sì, erano molti anni che non lo sentivo più, però è tanto bello, ragazzi, ma tanto bello. Si parla di indie inglese, no? Si parla comunque di musica indie. Però tanti musicisti indie dovrebbero riascoltarsi questi dischi. Sì, tanti musicisti dovrebbero risentire le sonorità dei Ride, perché sono state dimenticate, ma voglio dire, finale con gli archi è una cosa meravigliosa, capolavoro, esattamente, meraviglioso, grandissimo, ci stava benissimo. Adesso ci sta benissimo il pezzo che hai scelto te, sì, Fabio. Questo è impossibile dimenticarlo. E anche capisco perché l'hai scelta, chitarrista, insomma. Beh, sì, ci sta. Qua era quasi d'obbligo, voglio dire, insomma. Anzi, mi meravigliamo se non lo può fare. Dopo questo finale con archi veramente meraviglioso, che testimonia sempre di più la capacità di tra virgolette degli stranieri di avere queste registrazioni che osano sempre cose che in Italia si fa sempre fatica a fare. Sempre una questione di mentalità. Di mentalità. Non che non ci siano bravi musicisti. No, assolutamente, italiani. Ce ne sono. Il problema è riconoscere questa capacità di osare. E poi la capacità di creare queste registrazioni strepitose. Adesso ci sta assolutamente Jimi Hendrix, nome stava, e cognome. Ci stava sempre. Nome ci e cognome. Stava sì, ci sta in ogni trasmissione, direi. Ci stava sempre. Nome e cognome che non ha bisogno di presentazioni, però questo brano Angel mi ricordava il mio amico Gianluca, sta in uno degli ultimi album, o forse l'ultimo. Sì, Cry of Love abbiamo scelto. Cioè, all'epoca uscì come Cry of Love, poi ci sono state un sacco di discussioni, un sacco di soldi presi. Si chiama Magnerecce, sì, cioè, esatto. Ma hanno mangiato tutti, purtroppo, certo. Anche sul cadavere del musicista. Soprattutto hanno mangiato in modo indecoroso. Sì. Poi bootleg. Centinaia di bootleg pirati venuti fuori dopo la morte di registrazioni Hendrix. Cancellate roba e sovraincisi con dei musicisti turnisti, certo, una cosa schifosa, proprio una roba, uno sciacallaggio totale, sì, sempre per il dio denaro, una cosa incredibile. E comunque questo personaggio ormai emblematico, purtroppo gli artisti morti vendono più degli artisti sì, purtroppo è questo. Io ricordo, a proposito di Hendrix, Ciao 2001, ricordate Ciao 2001? Come no? Quando venne Hendrix in Italia, e i Gadget regalava i distintivi, sì, di Hendrix, una cosa meravigliosa. Ma tu eri nato, strano, Agostino? Perché la stampa è nato. È una cosa meravigliosa, era una cosa meravigliosa, c'era proprio gli articoloni su Hendrix di sì. Ciao 2001, ragazzi, strano, perché la stampa italiana non era proprio, ma vedi, era l'unico giornale musicale che c'era, Gianluca, sì, ma intendo, se vai su YouTube trovi un servizio della Rai, credo, con Jimi Hendrix che arriva a Roma. Beh, lui è stato a Piper, dobbiamo dirlo questo, diciamo che è stato trattato malissimo, cioè, se tu vai a sentirti quel che dice quel giornalista oggi lo linceresti. Ma scusami Gianluca, ma buongiorno Mike ha detto, quando ha presentato gli Herberts li ha chiamato i gallinacci. Anche i Beatles sono stati maltrattati in Italia, sono stati ripresi dalla Rai perché dicevano tanto dureranno due mesi questi. E sai chi c'è? Esiste un radiogiornale in cui i Beatles vengono definiti pitecantropi. Hai ragione, certo. I quattro cantanti di Liverpool. E il video c'era Peppino Di Capri dei Beatles, il concerto. Aprì Peppino Di Capri e New Dada. Esattamente, fate conto. E pare che fu fischiato anche Peppino Di Capri. Pare. Ha fatto bene forse a fischiare. No? Incredibilmente quei concerti non registrarono tutto esaurito. Perché non capivano? Gli italiani non capivano. C'erano i New Dada. Vi ricordate chi erano i New Dada? Sì. Maurizio Arcieri. Sì. Quello che si è tagliato un dito. Si è tagliato un dito, Maurizio Arcieri. Un po' di tempo. Non so che si era infilato lo spillone. E anche nella, si è tagliato un dito perché voleva dare una performance anche lui. Mamma mia. Siamo andati sul truculento, non sì, so sì, come, sì, sì. Jimi Hendrix. Ma comunque. Manager, per chiudere, io c'ho un ricordo della mia infanzia, della mia gioventù più che altro, insomma, ricordo che facevo le superiori, insomma, il primo anno delle superiori, e allora c'erano i jukebox. Certo, che belli, come no. Esatto, e c'era anche Jimi Hendrix con due canzoni, una era Hey Joe, e io mi ricordo che andavamo sempre lì e ascoltavamo quella e non solo, insomma, anche altre canzoni, quindi bei tempi, quindi. Possiamo dire che è una ballad, Fabio, questa qua. Assolutamente sì. Una vera ballad. Ballad hendrixiana, che è ben diversa dalle ballad degli altri. È una ballad E non è un solito classico. Registrata anche questa in maniera assolutamente unica. E la registrazione conta anche, in questo caso, non poco, con la resa sonora del grande chitarrista. Per cui Angel. Thank you. jars of clay. Let the light shine out of darkness, falling down but not destroyed. Allora allora ci risiamo. Altro scherzo. È un altro scherzo. Un altro è, scherzo. È colpa mia. Ho disorientato io. Il regista. Agostino. Sì, il buon regista. Riproviamo. Riproviamo, dai. Non è questa. No. Non è questa. E allora? Beh, intanto parliamo qua. Mentre cerchiamo di appurare dove è il pezzo, parliamo ancora. Eccolo qua. Eccolo. Allora ascoltiamo, eccolo. Via. Stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gone now. Tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, you're gonna rise. And then she took me on my sweet angel. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 22:33 dopo Jimi Hendrix con questa Angel. Vi ricordo che questa è una trasmissione serale dedicata interamente alla storia della musica del rock. Abbiamo ascoltato fino adesso pezzi straordinari, abbiamo ascoltato anche pezzi ultra famosi come Wish You Were Here di Pink Floyd o come San Francisco di Scott McKenzie. Anzi, io ne approfitto per risalutare Jelena Plinsky, che per un attimo non ha sentito il nostro saluto e vi saluta caramente tutti quanti, insomma. E questo era appunto Angel di Jimi Hendrix. Io, cari ascoltatori, e parlo anche con Gianluca e Fabio, quando ricordo Andy, ricordo All Along the Watchtower. Perché? C'è un motivo. Il pezzo di Dylan è un pezzo di Dylan, ma fatto da Hendrix è un pezzo di Hendrix, non è più un pezzo di Dylan. C'è poco da fare. Decisamente. È una cosa incredibile. Quando senti quel pezzo là, non c'è niente da fare, non puoi stare fermo. No. Devi capire, ti trasporta, sei dentro. Ha rifatto una cosa incredibile. Lui ha rifatto, non c'è più scritto Dylan, c'è scritto Hendrix, è lui l'autore del pezzo. È più forte di me, c'è poco da fare. È testo bellissimo, disco meraviglioso. Non è male neanche la versione originale di Dylan, eh? Sì, è bello anche quella. Però vedi, Dylan l'ha fatta alla Dylan. E lui era in grado di riprendere il brano e rivoltarlo. Lui l'ha rivoltato in maniera personalissima. Personalissima, come ha fatto con Sgt. Pepper. L'hanno fatto ascoltare prima che doveva uscire e lui due giorni dopo l'aveva già insegnato al gruppo. È chiaro. E lui era già una hit, aveva già capito che aveva il potenziale questo brano qua. Certo, sì. E ci sono delle registrazioni bootleg dove lui suona Sgt. Pepper. È vero. Meraviglioso. Benissimo. Adesso passiamo al 1972, qualche anno prima dell'80. Un altro gruppo inglese molto amato perché, in Inghilterra. Perché se ti sei buttato al glam rock? Non ti vedo proprio glam rock. No, beh, ma sai, io ascolto vari generi musicali del rock, a differenza magari di tanti altri che purtroppo in Italia pensano più alla tifoseria che non magari al cercare di ampliare le proprie orizzonti nell'ambito musicale del rock. Mi piace un po' ascoltare varie fasi della musica rock, anche per capire un po' meglio quella che è la storia del rock. Del resto non farei un programma su questo. Certo. Questo genere. Loro sono profondamente inglesi nonostante tutto, secondo me. Sono molto inglesi, sono molto amati dagli inglesi e sono, assieme ai Beatles, l'unico gruppo inglese che ha avuto 13 numeri 1 nella loro storia, insomma, voglio dire. Mica poco, negli anni 70, sono stati tra i gruppi più noti, diciamo. Certo, più venduti, ma erano amati anche dalle nostre parti, sì. Un po' non meno, però in Inghilterra però ancora così. Oggi sono molto amati, in particolar modo per i loro vocalista e chitarrista Noddy Holder, ma soprattutto anche per Dave Hill, che oggi è l'ultimo rimasto della formazione originale. Certo. O perlomeno è l'ultimo che va avanti ancora con il nome Slade, perché gli altri si sono tutti ritirati. Chiaro, Slade. Però hanno una storia lunghissima. Allora, io ho comprato recentemente un DVD con quasi tutti i video, comunque i live o filmati, diciamo, delle loro apparizioni, sono veramente tante. Tantissime. Poi tu hai scelto il disco più famoso, quelli che li ha. Sì, abbastanza sì, famoso. Sì, sì, anche dalla copertina molto famosa. Sì, molto bella, molto, molto bella. Dove ci sono loro, ma in tante copertine ci sono loro. Hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi una profonda influenza nella musica rock inglese di una certa robustezza, proprio perché al di là del fatto che comunque avevano un pesante accento inglese. Erano glam. Sì, all'inizio un po' meno, diciamo che erano molto più vicini alla working class inglese, questo dopo è il segreto. No. Dopo poi hanno cominciato con il glam perché era il momento del certo, glam, certo, ma certo. I primi concerti li facevano vestiti come gli operai inglesi. Questo conta tanto in Inghilterra, se stai con la gente, poi la gente ti ricambia. Certo, e questo è questa affezione che hanno sempre avuto gli appassionati, la gente comune, che ha fatto in maniera che gli Slade avessero sempre avuto, anche nei momenti peggiori, un buon seguito musicale. Gruppo che ha influenzato anche gruppi americani, i Quiet Riot, gruppo glam metal, ha avuto due successi. Uno è il brano che sentiremo dal secondo disco. Il primo era Come On Feel the Noise, e con quelle canzoni lì loro non ci pensavano neanche, ma sono arrivati al numero uno in classifica. Questo fa capire che loro sono sempre stati degli Slade, grandi innanzitutto scrittori di inni musicali, poi anche i titoli erano in stile in slang inglese. Questo ti avvicina tanto sempre alla gente comune, e un gruppo veramente straordinario, boogie rock, e voglio dire, abiti vistosi, in particolar modo Dave Hill, che si vestiva in maniera sempre più sgargianti. Ci sono veramente dei filmati incredibili dove lui si veste in maniera incredibile, soprattutto con i grandi zepponi. Esatto, i grandi tacchi. Io ho seguito un gruppo che negli stessi anni faceva un po' da concorrenza. Sicuramente gli Slade hanno avuto il nome più alto, però anche gli Sweet era un gruppo molto interessante, vero, che io ho seguito in quegli anni lì in contemporanea. Forse di questo gruppo qui io devo avere un paio di 45 giri, per cui sì, grande gruppo. Bene, sentiamo allora, dal disco Slade del 1972, titolo. Il titolo si intitola Mama, We're All Crazy Now. Che ti ricordavi sulla fase iniziale del pezzo, non al finale? Sì, infatti. Ho visto la tua faccia. So, tutti ricordano la fase iniziale, però la fase finale è un po' leggermente diversa. Bene. Parliamo di questa chitarra. Fabio ha dato una bella definizione da musicista di questa chitarra, vai. Sì, beh, appena è partita, voglio dire, il suono, il termine mi è venuto sulla bocca, cioè grassa, la chitarra grassa, che all'epoca poi aveva un significato, poi negli anni sicuramente è cambiato, perché questa chitarra comunque distorta a volte quasi fastidiosa, tirata al massimo, esatto, come era una volta. Poteva essere magari graffiante, poteva essere acida, però comunque grassa. E questo era dato dal tipo di distorsioni che venivano usate all'epoca, per cui dall'amplificazione, dai pedali a volte che erano esistenti, per cui era comunque solo amplificatore. O anche solo amplificatore, ma comunque era un suono, un distorto spesso che adesso viene catalogato come fuzzoso, cioè, o anche stoner forse. O stoner, sì, ma comunque sia una distorsione che adesso gode di una dinamica esagerata rispetto al tempo, allora era un volume esasperato. E questo grasso, che comunque, cioè il termine grasso ti viene appena la senti, almeno a me, ed era dato appunto da questi strumenti dell'epoca, voglio dire, chiaramente. Sì. Cioè c'erano queste possibilità, quelle sfruttavano al meglio delle loro possibilità. Non si tiravano mai indietro, assolutamente. Ah no, assolutamente. No. Cioè, si usava molto, per questo, esatto, era il bello. Cioè, certi suoni, si sperimentava in continuazione. I dischi, perché sono interessanti, ancora adesso li ascoltiamo. Perché si sperimentava molto. Certo, immediatamente, subito. La sperimentazione è sparita via via col tempo, perché... Un'altra cosa, si dava lo spazio ad ogni suono. Beh, sì, certo. Questo è vero. Certo. Sì, sì, che poi lo sentiremo nella mia prossima scelta, mm-hmm, in maniera molto più... Ma anche negli Small Faces, se avete sentito Tin Soldier, sì, la batteria aveva il suo spazio, certo, la chitarra, sì, aveva il suo spazio. Certo. Oggi è tutto compresso uno sopra l'altro. Ma perché è stato tutto compresso, secondo voi? È stato ridotto la creatività per portare tutto subito, e tutto si deve gestire immediatamente e poi bruciare immediatamente. Questione di costi? Questione di costi. Costi. Di globalizzazione, la, ma la globalizzazione, cioè arrivare in qualsiasi parte del mondo, sì, è positivo. La globalizzazione del suono, cioè, per cui anche i vari supporti che col tempo si sono succeduti, arrivando purtroppo, ahimè, lo dico perché comunque non sono amante dell'MP3, che taglia tutto, sì, che comprime, per cui, comprime esasperatamente, taglia frequenze, taglia esattamente. Se tu fai un disco anche che possono godere gli audiofili, ma poi lo comprimi, cioè è un controsenso. Cioè, esatto. Cioè, che sono perfettamente d'accordo con Fabio, sì, perché, ma lui parla da musicista, non solo da, ma anche da chi ascolta, esattamente, certo, ma la senti la differenza, sì, non assolutamente cioè è assurdo cioè questo formato, il VAVA già mi piace, insomma. Vabbè. Anche il VMA non è tantissimo, no. Però insomma l'MP3 è proprio l'ultima soglia, sì, è comodo, però è comodo, perché è comodo. In un disco ci fai, sì, stare 200 canzoni, esatto, in un solo CD, però insomma, esatto, alla fine poi la qualità, però vedi, altro discorso, appunto, hai detto si stavano 200 canzoni, per cui una volta si badava più la qualità, non la quantità, esatto, è vero, esatto, esatto. Adesso una vogliamo... volta sto disco come questo, e infatti io non sono molto d'accordo con le piattaforme, uh-huh, digitali, che tanto lo scaricate in MP3 eccetera, lo pagate 99 centesimi la canzone, sì, ho capito, costa poco, però alla fin fine poi c'hai anche poco, insomma, vedi. Io parlo da ascoltatore, giusto, da chi ascolta musica. Fabio ha parlato da musicista e Gianluca meglio, cosa ancora, parla? Meglio ancora sarebbero i 33 giri. Vedi, no, il problema forse dei dischi di oggi, mentre una volta magari uscivano un po' meno dischi e te li godevi di più, oggi c'è una produzione discografica talmente impressionante che ascolti più musica di quella che riesci ad ascoltare in tutta la tua esistenza. Certo, sono d'accordo. Per cui siamo invasi talmente tanto di musica che a un certo punto arriviamo alla saturazione. Dipende. Sì, dipende sempre, però voglio dire, poi alla fin fine, il giorno d'oggi, se non hai una mentalità aperta, se non hai sempre avuto l'abitudine ad ascoltare la musica come si faceva una volta, difficilmente hai la curiosità di ascoltare qualcosa dei giorni nostri. Se invece hai sempre questa idea che ascolti l'hit single o comunque ascolti, bravo, la musica di oggi e dici, beh, ma la musica di adesso non è più quella di una volta, torni sempre alla nostalgia. Sì, è il pericolo di oggi. E infatti io sono un grandissimo nostalgico, perché adesso no, ma non però si deve andare anche avanti, insomma, sì, ecco. Sì, sì, ma voi lo carità fate con le interviste, però... con le band fate già un grande bel lavoro, voglio dire, quindi ed è difficile, il problema è convincere il fruitore classico, il fruitore della strada oggi, quello è il problema. Però, vedi, però le band che vengono qua intervistate, tante, si trovano subito il messaggio, cioè il portano avanti il disco, ma non soffrono come dovrebbero soffrire, secondo me, cioè bisogna soffrire per fare un album, ci vuole tempo, ci vuole tempo, non glielo diciamo però questo, no. Bisogna fare gavetta, bisogna fare anche più di un disco, no, certo. Io credo che forse il problema è che, appunto, come diceva Gianluca giustamente, c'è tantissima gente che fa un disco adesso, sì, esatto, e quindi è difficile emergere. Allora, o sei fortunato e fai un pezzo che sfonda e allora tutti ti conoscono, oppure resti nell'anonimato, insomma, resti sì, quelli... però cioè, ci sono degli artisti sì. che passano qui, noi lo diciamo perché vengono qui a suonare, li abbiamo scoperti per quello, che sono veramente bravissimi e soffrono, è quello il motivo, soffrono che non emergono, ma non soffrono, soffrono per... però si danno da fare potenzialmente. Noi abbiamo sempre un mercato italiano che ha le mandate chiuse, esatto. E lo so, comandano i soliti, comandano i soliti. Ma il problema è che dovrebbe essere anche la gente un pochino a aprire, è la mentalità che non c'è, ma finché abbiamo le radio che fanno sempre continuamente ascoltare le solite canzoni, ma è la gente che poi richiede sempre le stesse canzoni, ma per forza, per forza, quando te lo inculcano 100 volte al giorno, ricordati che i ragazzi, soprattutto giovani, sono spugne, assorbono. E noi stiamo facendo qualcosa di buono, però. Certo. Speriamo che assorbano. Esatto. Adesso passiamo a un pezzo di Gianluca che amo particolarmente. No, io ne approfitto, no. Scusa Maurizio, se ti interrompo per salutare due nostri colleghi. Vai. Uno è un grandissimo esperto di musica rock, tu mi confermerai, ed è Fabrizio Ruzza. Sì, alias David Guetta. Sì, proprio di musica rock lui. No, però... ma lui amplia orizzonti, però lo salutiamo Fabrizio, esatto. Una persona simpaticissima. E poi abbiamo un caro amico che da poco è anche amico tuo, Maurizio, abbiamo il nostro caro amico Gilles, certo, che ci è venuto a trovare, salutiamo anche Gilles. E si sta ascoltando. Chiuso la parentesi, chiedo scusa se ti ho interrotto. Hai fatto bene. Adesso passiamo a un gruppo che amo particolarmente, visceralmente, da sempre, ma è toccato proprio nel mio intimo, perché i Moody Blues fanno parte del mio io musicale. Si parlava di arrangiamenti. Grandi arrangiamenti, Blues hanno grandissimi. I primi dischi sono fantastici, orchestrati con una musica che viene definita prog sinfonico. Sì, esattamente. Anche con, è vero, secondo te, Gianluca, che sono stati i primi in assoluto a inventare il concept album? Secondo sono stati i primi a cui è stato proposto di fare un disco concettuale con l'orchestra sinfonica. Days of the Past. Si dice che il prog sia nato, diciamo, con l'uscita del primo disco dei Moody Blues, insomma, ecco, Days of the Future Past. Poi sono arrivati Nice, sì, tanti, certo, altri, ma il primo è stato proprio il disco dei Moody Blues, anche se Go Now, che è il singolo beat, è grande successo. Il primo disco però è un'altra cosa. Esattamente, tutto rhythm and blues è particolare. Da Days of Future Past sono altri Moody Blues. È perché tutti ricordiamo Days of Future Past? C'è un pezzo famosissimo, Nights in White City, quello che è tradotto in Nomadi benissimo, bisogna dire che e anche i Profeti, anche i Profeti, se vogliamo dire. Ma in Nomadi l'ho rifatto anche Dalida. Purtroppo sì, l'ha rifatto anche Dalida. Insomma, purtroppo no, nel senso, cioè, l'ha fatta a maniera sua. Diversa, diversa, un po' diversa. Però secondo me fatta da Augusto è un'altra cosa. La voce di Augusto era particolare. Come Augusto ha ripreso un famoso pezzo di Elton John dal primo album. Alla Bianca. Dal primo album, con l'arrangiamento di un musicista straordinario. Cioè, Augusto, parlando dei Nomadi, io ricordo i Nomadi fino alla morte di Augusto. Poi, secondo me, i Nomadi non esistono più. Augusto aveva la capacità. Tu non sei d'accordo? Io la penso così. Io ho visto i live dopo Augusto, ma comunque carini, insomma. È altra musica. La musica va avanti, i gruppi vanno avanti. Forse Danilo Sacco è stato bravo, l'ha sostituito bene per molti anni. Sì, purtroppo adesso... è stato cambiato, è stato preso un cantante qui di Padova. Però la voce di Augusto aveva la caratteristica di riprendere le cover in una certa maniera. Perché era un bravo cantante, aveva carisma. Era un bravo cantante e non erano cover fatte a caso quelle di Nomadi. Poi era un cantante e un artista. Un artista, perché dipingeva, sì, quindi aveva tante ispirazioni, era una spugna, prendeva molte ispirazioni da varie cose. Molti stimoli, certo. Questo è importante in un musicista. Certamente. E quindi Days of Future Past, questa riproposta di pezzo dei Moody. Moody avevano fatto, soprattutto i Moody avevano questo, avevano delle copertine meravigliose. E anche un bravissimo produttore. È un bravissimo produttore che era praticamente era sempre là. E l'etichetta era la loro, da Three Soul Music, ti ricordi? Sì, da questo però disco, però. E lo citiamo, che è un titolo meraviglioso: To Our Children's Children. Benissimo. Il disco più forte, possiamo essere d'accordo con più te. Personale. Più personale. Perché sono tutti belli. Già il terzo, In Search of the Lost Chord, è molto particolare. Ci sono pezzi stupendi. Però ho scelto questo perché c'è questo brano stupendo che è Gypsy, che ha un crescendo straordinario, vocale, gli archi, insomma, ce lo ascoltiamo perché capiremo meglio. Certamente. The gypsy Che bello, c'è poco da fare. Quando scendo i moody mi alzo, mi questa, questa scelta è piaciuta molto anche a Lorena Michelin. Grande Lorena, salutiamo da, dalla provincia di Venezia. Ci sta ascoltando. Provincia di Venezia. Questa è una scelta meravigliosa perché i moody Sandonà. Sandonà di Piave. Perché i moody erano un gruppo. Sono ancora anche se sono rimasti tre membri originali, ovvero Justin Hayward, John Lodge e Graham Edge. È vero. Gli altri sono ancora cambiati, per motivi di età. Negli Stati Uniti, però. Sono anche in Inghilterra, sai. Sì. Mentre quando parlate, vi tengo da sottofondo perché l'hanno quasi richiesto. Avete parlato di Nomadi. La versione di Days of Future Past? No, ho scelto Alla Bianca, live dell'81. Benissimo, Alla Bianca, un altro pezzo. Tanto vi parlate, Benissimo, riparlando dei questo era Gypsy, hai scelto un pezzo con, una, con un crescendo meraviglioso. Sì, grande orchestra. Soprattutto orchestrazione, ce la dimentichiamo che i Moody Blues sono stati il primo gruppo a utilizzare in maniera massiccia il mellotron. È vero, benissimo, benissimo. Uno strumento che riproduceva gli archi sintetizzati attraverso dei nastri magnetici con delle preregistrazioni. Benissimo. Perché Mike Pinder, il tastierista, era dipendente della ditta che fabbricava i mellotron. È vero. Quindi se l'hai comprato uno quando ha avuto... Queste cose bisogna saperle, c'è poco da fare. C'è un aneddoto scritto anche su Wikipedia dove durante un concerto in America al secondo brano i nastri del mellotron sono saltati e Mike Pinder in mezz'ora è riuscito a riparare i nastri e far ripartire il mellotron. Eccezionale. Quindi hanno dovuto fermare il concerto, trasmettere Topolino e nel frattempo lui sistemava i nastri. Pensa se non avessero avuto il tecnico a portata di mano cosa succedeva. Perché il mellotron è uno strumento delicatissimo. Queste cose qua adesso non esiste, non si possono più fare. Si fabbrica il mellotron ancora. Si fabbrica ancora, però, fa una ditta delle Midlands. Sono d'accordo con te, però diceva giustamente Fabio mentre il pezzo andava. Le sonorità di questo pezzo non sono più riproducibili, c'è poco da fare. Come fai? Non si possono più fare. No. Ci fanno i soldi. Si vogliono tanti soldi, ma non sono questione di soldi, questione anche... Di anima. Di anima, di anima. Questa, hai detto una cosa giusta, di anima, non c'è più. È la base. È la base di tutto. Almeno era la base per fare musica. Dovrebbe essere ancora la base, sì. Adesso passiamo al pezzo tuo. Che base c'è per il pezzo che hai scelto? Che anima c'è nei Journey, praticamente? Che anima c'è? I Journey sono... Un po' che ama anche Agostino, piace molto anche ad Agostino. Dai, io li adoro. E chiaramente le figure principali sono Steve Perry, il cantante, con questa voce assolutamente irriproducibile, e il chitarrista Neil Sean, soprattutto. Da questo abbinamento magico, ma anche gli altri, Steve Smith, certo, Ras Valery. Tutte personalità assolutamente forti che hanno contribuito a creare questo gruppo veramente dalle sfaccettature interessanti. Il primo tastierista, che era Greg Rowley, che poi incredibile, Greg Rowley, anche Greg, il periodo di Greg Rowley è assolutamente magnifico, i primissimi dischi dei Journey. Lo sai che stabilmente la loro greatest hits è sempre nei primi 10 posti delle classifiche, sì, Billboard, sì. Sì, sì, è sempre la stabile, sì, sì. Billboard, quelli sono tra i gruppi rock venduti da catalogo praticamente nelle categorie. Come fai a spiegare la magia di quei brani per cui appunto rimangono ancora in classifica, ancora in classifica? Cioè, c'è qualcosa che non puoi spiegare, non è che puoi dire ma perché ha questo suono, perché c'è quella nota. È tutto un insieme. Sì, e a tal proposito, The Dark Side of the Moon questa settimana è 35esimo nella classifica Billboard. Non si sa perché. 35esimo! Ho 13 anni in classifica a Billboard. Lo sai che adesso, tornando ai Journey, il cantante Steve Perry è stato sostituito da un cantante, Ariel Pineda, esatto, di origine filippina, trovato tra le varie tribute dei Journey. Hanno trovato questo cantante, vedi, a forza di fare tribute, ma non è che fai tribute, adesso non vorrei nominare e offendere nessuno, però insomma, fa la tribute dei Journey e evidentemente ha reso Ariel Pineda, anche perché effettivamente è molto bravo. Non è Steve Perry, adesso, per carità, è inutile. È un clone comunque ben riuscito, ma non è Steve Perry, soprattutto nella creatività. E questo brano è Trial by Fire, tratto dal brano proprio dall'album Trial by Fire. È un brano piuttosto intimista. Beh, a me la parte più intimista dei Journey è sempre piaciuta molto, al di là del rock che comunque trasudava sempre dalla chitarra di Neil Sean. Però il lato intimista che la voce di Steve Perry esalta è un qualcosa di boh, a me lascia veramente a bocca aperta, insomma, mi incanta. E l'unico cantante hard rock che è stato accettato in We Are the World. È l'unico. Vero? Non è poco. Non è poco. Voglio dire. Esattamente. C'è una frase che dice, non so chi parlasse prima del Club dei 27, ma dice: mai pensato di parlare del Club dei 27 o se preferisci la maledizione della Jay? Secondo me è coinvolgente con un conduttore di oggi, poi. Fagli i miei complimenti. Stavate parlando di qualcosa? Abbiamo parlato di Hendrix. Sì, Hendrix. Abbiamo parlato di Hendrix e delle tragedie che sono capitate. Sì, probabilmente. No, poi non ci credo tanto a questo Club dei 27. Hendrix è morto, aveva 27 anni, sì, James Joplin aveva 27 anni, Brian Jones aveva 27 anni, Jim Morris aveva 27 anni. Il comune denominatore è: se continui ad abusare di droga, prima o dopo ci lasci le penne. Sì, sono d'accordo. Però è forse una questione, sì, sì. Parliamo di tragica fatalità. Perché ci sono ancora delle Jay vive. Sì, è vero. E anche lui è d'accordo con te, Maurizio, dice: anch'io, purtroppo anche per me, i nomadi si fermano con Augusto. E sono perfettamente d'accordo con questo ascoltatore che ci ha scritto. Va bene, allora, scusa, ti ho interrotto. No, per cui Trial by Fire dei Journey. Hello, Mr. Moon. shall down on you. Just another trial by fire. Just another trial by Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, adesso facciamo una piccola sosta nelle nostre scelte e lasciamo la parola a Fabio perché ci vuole parlare del suo progetto, della sua band, che è una cosa molto interessante, così ci spiega chi sono o chi cosa faranno praticamente. Beh, ti ringrazio dello spazio, Maurizio. Gli Swords sono un gruppo, appunto, come ho detto prima, nato nel 1981. Non sto qui a farti tutto il percorso perché sennò ci servirebbero altre tre ore. Esatto. Andiamo un po' al sunto, per cui adesso ascolteremo tra poco un brano tratto dall'album del 2009, Brief, che ho prodotto interamente, registrato in Slovenia, scelta proprio... Come mai in Slovenia? Fabio? La scelta è stata dettata non tanto dal discorso costi, ma sia per un motivo di amicizia, perché comunque avevamo registrato lì anche un altro album nel 92, che poi è uscito nel 93 per Ricordi, che era The Reason Why, ma anche per il fatto che l'uso che fanno delle macchine, la concezione che c'è lì in quello studio, è proprio la concezione che io amo, cioè per cui per avere quel suono straniero, tra virgolette, cioè gli studi italiani sono assolutamente qualitativamente validi, niente da dire, i fonici sono bravissimi, però c'è un po' un gusto particolare nella registrazione che abbiamo noi, che per quello che volevo io, solo per quello che volevo io, non era l'ideale, per cui sono andato lì, insomma. E poi, ragazzi, cioè, a Capodistria c'è il mare, per cui... Era sempre i momenti, i day off erano assolutamente di primo piano. E adesso stiamo preparando un nuovo album che penso, tra fase di progettazione e realizzazione, cominceremo le registrazioni a settembre. uscirà sicuramente nel 2013. Un album che sarà un passo in più rispetto a questo. Questo che ascoltiamo adesso è un po' per me il numero zero, perché dopo 10 anni di inattività, dal 95 al 2005, anno in cui ci siamo ritrovati, abbiamo voluto fare questo prodotto, e rispetto al passato è un po' un salto a metà verso il futuro, mentre il nuovo è assolutamente, sarà assolutamente il numero uno. Per quanto siete sempre gli stessi elementi, comunque anche adesso sono passati siamo gli stessi, io e il cantante bassista, che è Cesare Maggiolo, e gli altri sono sempre cambiati nel corso del tempo. La cosa che si diceva anche adesso con i ragazzi qui è che il fatto di mantenere una formazione nel tempo facendo musica originale è veramente da eroi in questo paese. Certo. Per cui è una passione smisurata che bisogna avere tutti assieme e coltivare il progetto. Pienamente d'accordo. E presente in questo pezzo c'è anche alle backing vocals, c'è anche Tiziana Guerra, che voi conoscete. Sì, una carissima amica che saluto caramente con un abbraccio. Ciao Tiziana. E che poi ricordiamo è la direttrice del coro Note Nere. Sì, sì. Coro no, non da poco. Non da poco, esatto. È diventata anche quello, insomma. Gli mancava. Esatto. È grandissima. Per cui direi di ascoltare questo brano, Pray For Me, da Brief. Pray to heal my body, pray to heal my mind, pray to save my tired heart, don't let it be so blind. Side. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. È bello, interessante, io la prima volta che lo ascolto, è assolutamente new entry per me. Interessante, è un progetto che mi affascina, mi prende. Una specie di mantra, questo suono, sì, ripetuto, esatto, continuamente. Ti prende indubbiamente e poi dovrei suonare qua quello dal vivo nuovo, chiaramente. Ti ringrazio. Vedrai, cioè, Rockwave è sempre una palestra, secondo me, e suonare, non so se suonare in elettrico o suonare in acustico, è sempre un tentativo, un'evoluzione, perché suonare in acustico è ben difficile, secondo me. Sì, molto complicato. Certo, però ti può anche dare delle soluzioni diverse, interessanti. Sì, sì, assolutamente. Mi parlavi prima che fai un concerto, mi pare, il primo settembre. Sì, il primo settembre partecipiamo nell'ambito di un festival rock metal, anche se noi non siamo assolutamente metal, insomma, almeno non ci sentiamo sotto questa egida, questa categoria. Siamo un po' gli anziani del festival. Del festival. E suoniamo il primo settembre, appunto, nell'area del Lago Verde a Torreglia, qui in provincia di Padova. Quindi presentate i pezzi del nuovo disco o pezzi vecchi? Praticamente quasi tutto quest'album, c'è, cioè, Brief, certo, e l'anticipazione di uno o due brani del nuovo album. Sì, sì. Benissimo. Sarà una serata interessante. E il disco nuovo quando pensi uscirà? Il disco nuovo ha una lavorazione molto diversa rispetto a Brief, che è stato, diciamo, ha avuto una scrittura più uniforme. Questo nuovo è molto più variegato, più arrangiato, con interventi anche esterni, tipo Quartetto d'Archi, eccetera. Ah, però, sì, sì, cioè, siamo diventati ambiziosi. Bello così. Ci piace sperimentare, visto, certo, quello che si diceva prima. Certo, certo. Produzione vostra, assolutamente. Produzione nostra, assolutamente. Ce l'ho mente a presentare in prima. Sì, sì, ma abbiamo già scritto. L'ha fatto tutto. Non ci scappa niente qui. Il contratto è fatto. Il contratto è fatto. Adesso passiamo ad altri che il contratto hanno avuto un bel contratto. Non possiamo fare passare. Passiamo. Questo gruppo ha avuto un ottimo contratto con la Highland, mi pare, l'etichetta. Sì. Ma se ne parla sempre poco. A parte del cantante. Si parla sempre di Led Zeppelin, si parla sempre di Deep Purple, si parla sempre di Black Sabbath. Si parla poco dei Free. I Free. Forse perché vengono etichettati come gruppo pre-hard rock. È vero. Chi lo sa. Sì. Qualcuno dice che i Red Hot Chili Pepper si sono molto ispirati in alcuni momenti ai Free. Cosa dici? Chi lo sa? Io non lo so, perché sono più vicini ai funky. Sì, sono più vicini, però certe cose non sono prettamente funky. Però sì. Parliamo di Free, che è un gruppo molto interessante. Straordinario. Basta pensare a Paul Rodgers, il cantante. Esatto. Ma un chitarrista che è molto sottovalutato, che è Paul Kossoff. Esatto. Parliamo di Paul Kossoff, che è un chitarrista veramente che sapeva come si gestisce una chitarra. Si parla di oggi di chitarristi che hanno fior di pedaline, di effetti, cosa. Paul Kossoff non aveva effetti. Era minimale al 100%. Minimale, però pare che Eric Clapton lo fermò un giorno e gli disse: ok, adesso mi fai sapere come fai a venire fuori con quei suoni lì, con la chitarra. Se lo dice Clapton. Novità dal punto di vista musicale: la Gibson ha fatto venire fuori una riedizione della chitarra di Paul Kossoff. Se gli può interessare, vuol dire che sapeva suonare in una certa maniera. Sì, sì, era un chitarrista particolare, molto blues. Una carriera che purtroppo è stata stroncata dalla droga, sì, come tanti chitarristi, purtroppo. Vale veramente la pena. Vabbè, comunque, bisogna citare anche gli altri elementi: Simon Kirk, il batterista, poi fondatore con Paul Rodgers dei Bad Company. Abbiamo già detto tanto. Ed Andy Fraser. Zeppeliani convinti. Molto zeppeliani convinti. Sì, sì, sì, ma anche inventori di quello che poi verrà definito l'AOR, quindi sì, la rock radiofonica. Quello, sì. E poi Andy Fraser, il bassista, che ha scritto le due canzoni più note dei Free. e che di quelle ha vissuto di rendita per molti anni. Esatto. Non so se vive ancora di rendita. Sì, penso di sì, farà qualche disco solista, ma certo, pare sì, che gli abbiano consigliato di... Sì, ma era un singolo colossale quello che ha scritto lui. All Right Now. Appunto, un singolo colossale. Non è la canzone che ascolteremo. Non è quella, non è quella. Perché in realtà di tutte le, di tutti i dischi che ho scelto il disco Free Live, cioè dal vivo. Perché sentendo varie registrazioni dei Free, mi sono reso conto che i Free rendevano molto di più nell'ambito della robustezza del sound dal vivo. Però, ed ho scelto Fire and Water, che è uno dei pezzi meno conosciuti dei Free, a parte All Right Now, che sì, è il pezzo diciamo quello più noto, però Fire and Water ha una carica straordinaria. La ascoltiamo dal vivo, da Free Live del 1971. Esattamente. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo ancora circa 35 minuti circa, più o meno, di musica bella, musica rock. Questa vi ricorda sempre il Blue Radio Veneto, la vostra emittente in questo momento preferita. Questa è la voce di Agostino Esplore, che assieme a Maurizio Calzavara staccano visti come non mai, come ci hanno definiti. Anche questa sera, oggi è mercoledì, siamo assolutamente in diretta. Oggi, dicevo, è mercoledì 22 agosto 2012, fino alle 24, con la musica rock, la storia, meglio dire, della musica rock. Ci siamo ascoltati un gruppo che piace molto a Gianluca, se non sbaglio. Sì, Free. Un critico ha scritto, Gianluca, non so se sei d'accordo, con la benedizione di Alexis Corner. Certo, che è stato quello che ha dato il nome. Assolutamente, oltre al nome ha dato anche l'impronta del blues, assolutamente blues, c'è poco da fare. Era proprio, trasudava di blues sto pezzo. Tantissimo. Dimmi, dimmi. No, stavamo interfacciandoci. Ah, Agustino. Bene, con Agostino. Scusate. No. Devo andare a gesti, no? C'è la mimica, sta diventando esasperata. Sì. Benissimo, allora abbiamo parlato di Free, adesso... Perché hai attecchito agli Sticks? Non hanno proprio una grossa parentela quei film? Assolutamente no. Cambiamo, no? Cambiamo totalmente. Quest'anno la scaletta non sarà cronologica, certo, ma sarà certo. Un po' 78, a random. Arriviamo al 78. Sì, perché questo è un gruppo straordinario, poco conosciuto anche questo in Italia. Sono arrivati qualche anno fa in tour assieme ai Kansas e fanno parte di quelle formazioni che mettono sì tecnica ma anche bravura nel saper registrare determinati dischi. Sono tuttora attivi, anche se Dennis DeYoung, il cantante, non c'è più. C'è Tommy Shaw che comunque porta avanti la formazione. Bravissimi. E i gruppi americani hanno questa particolarità: saper trovare degli arrangiamenti anche complessi ma riuscire a far stare tutto in un pezzo da singolo, quindi esatto. Anche con una resa radiofonica. Hai detto una cosa giusta: riuscire a stare tutto in un pezzo da singolo, perché sono molto melodiosi, anche possiamo dire. Sì, questo. Tecnici, melodici, con grandi capacità vocali e, voglio dire, sono stati progenitori di tantissimi gruppi, anche se oggi si dice sempre no, gruppi che hanno queste grandi capacità vocali non esistono quasi più, o comunque non si pensa che ci siano. Io mi ricordo un grande successo degli Sticks che facevo ascoltare quando ero ancora più giovincello sì. Negli anni 80, cioè Babe, che è una canzone... Che non è stata scelta. Non è stata scelta. No, ho scelto un bel pezzo hard rock. Sì, ecco, ma infatti non lo mettevo in dubbio questo, però voglio dire, insomma, io andavo per i miei gusti, che sono quelli più romantici, più melodici, e appunto noi, almeno io, insomma, nei miei notturni, anche nelle serate, così spesso e volentieri facevo ascoltare appunto Babe. Un gruppo che mi piaceva molto comunque, gli Sticks. Tu cosa hai scelto? Io ho scelto un pezzo da Pieces of the Eight del 1978 che si intitola Blue Collar Man, che ha un tiro spavento. Che non è romantico per niente. No, ma però hanno fatto anche delle stupende balle. È vero, assolutamente. Ecco perché mi piaceva. Certo. E sono stati anche vendutissimi in America negli anni 70. E non potevi scegliere una ballata. Non ti preoccupare. Dai, non che ti preoccupare. Scherzo. Ci sarà spazio anche per quello. Ecco, va bene. Allora cosa ci ascoltiamo, Gianluca, scusami? Blue Collar Man. Oh, Sì, no, lo mettevi su anche te sto pezzo. Sì, sì, sì. Vedi, la domenica mattina questa. La domenica mattina. È un contenitore. Perché la domenica mattina facevamo sempre contenitori di vari generi, anche musica per bambini. Pensa, spaziavamo dappertutto. Beh, insomma, era giusto, la domenica mattina le massaie, poi facevano il lavoro di casa. Sì, facevano la pasta e mi sentivano. Qualcuno mi invitava a pranzo. Sì, andavano di moda poi quegli anni là, sì, certo. C'erano gli stessi Kiss, che ne so, i Night, tanti gruppi che facevamo ascoltare quelle mattine, insomma. Fabio, tocca a te adesso. Sì. Ho portato un pezzo di un gruppo, i Kings X, che è assolutamente di nicchia in Italia, non sono mai stati particolarmente diffusi, un po' per il loro sound americano, un po' perché comunque lo stile musicale probabilmente è rimasto un po' ancorato agli anni 90 per certi versi. E poi perché è arrivato il grunge. E poi perché è arrivato il grunge, che ha spazzato via tutto, e comunque da assolutamente da riconoscere il merito delle parti vocali, assolutamente valido, ben ci sta in questa trasmissione. Per cui direi di proseguire senza perdere tempo, visto che i tempi stringono. E se abbiamo solo mezz'oretta. Sembravano tante, tre ore. No, forse un'ora in più serviva, anche due. È sempre così, sai. Questo vale per i live, per le trasmissioni normali, quando fai gli special, è sempre così. Ci stai sempre a pelo. Per cui Shout a Love da Out of the Silent Planet. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo, abbiamo sentito questo pezzo. Sì, metal, ma non metal pesante, no, non assolutamente. Metal. Non è neanche metal. Non lo definirei metal. No, come lo puoi definire? Un hard rock melodico. Un hard rock blues, a tratti addirittura, soprattutto nella chitarra, un po' hendrixiano. Ecco, dirti. Va bene, possiamo definirlo così. E come lo puoi definire un pezzo come questo? Questo non ha definizioni. Piace anche ad Agostino, anche se non è il singolo che lui pensava che no, perché purtroppo fosse. In Italia sono famosi per i Fiuli di Minerva, però no, cioè, che è sempre un gran ballatone, sembra una ballatona, sai come sai, io penso sempre che quando un artista, un gruppo, una band, insomma qualsiasi, faccia un disco, non bisogna ascoltare sempre la canzone che fanno sentire sempre continuamente le radio, ma la gente purtroppo ascolta sempre quella canzone qua, perché no sono, qui qua no, però no. Sono le radio che impongono, esatto. Sempre questo vale anche per la musica commerciale, ovviamente, insomma all'interno del disco ci sono sicuramente degli altri pezzi che meritano di essere ascoltati. In fin dei conti, no. L'artista quando lo fa sono figli suoi, io dico sempre. Insomma, quindi sono le canzoni che a lui piace. Perciò vorrà pur dire qualcosa anche in altre canzoni. Presentilo. Dai, presentiamolo. Allora, il pezzo si intitola 25 or 64. Che è un pezzo bellissimo. Da panico. Da panico. Fatto da panico. La linea melodica è ripresa da Give Me Some Loving dei Spencer Davis Group. Sì, va bene. Steve Winwood non ha detto niente. Steve Winwood. Loro hanno rifatto anche I'm a Man, sì. Nella loro versione personale. Okay. Però è tratto da Chicago Dude del 1970 e a distanza di così tanti anni è un pezzo ancora da paura. Sì. Provate ad ascoltarlo ad alto volume. Ad altissimo volume. Come dico io. Esatto. Alzate sempre il volume. Chicago. Cross Lake on the floor. Vedi, vedi, caro Agostino. Cosa vedo? No. Quando senti più che altro. Quando... Ah, ecco. Vedi, vedi e senti. Ah. Quando... Vedi, tu no, no, cioè noi eravamo in confusione. Cioè, sì, immagino. Nel senso positivo del termine. Emotiva. Emotiva. Emotiva. Ma sicuramente l'hai messo su questo pezzo. Sono, un sacco di tempo. È la storia, è la storia della musica. Questa band poi, insomma... penso che sia indimenticabile, insomma. Ah. Hai romanzo. Visto? Questo non era in programmazione. Ti hai detto metti l'intro. non è proprio l'intro. Non era proprio questo l'intro. Beh, insomma, comunque sono conosciuti per questa, sì. E per altre tante altre canzoni. Peter Cetera era straordinario, una voce bellissima, mi è sempre piaciuta tantissimo, anche con Alto Sensori, per esempio. E poi tutte le altre di quei dischi. A proposito di intro, adesso abbiamo scelto io e Gianluca di farvi sentire una cosa molto particolare. L'intro è conosciutissimo, qualche secondo, anche solo, il pezzo. Anche il pezzo. Solo sta qualche secondo, conosciuto. Solo qualche secondo. Va bene. Solo qualche secondo. Va bene. Devi sciogliere, farlo via. Lo conoscono tutti questo pezzo. Vabbè, non è che mi dispiace, sai, lo so, ma dura 7 minuti. No, no, esatto. Ma te lo tenendo in sottofondo, no, no, non ci sta proprio. Non ci sta, non, vabbè, ci sta. Non c'è da stare. C'è un motivo. Va bene. Adesso te lo spiego. Che è la prossima scelta, no? Te lo spiega Gianluca. Perché ho scelto un gruppo che è molto amato in Italia, che sono Jethro Tull, no? Perché Hotel California, c'è un pezzo su Stand Up del 1969 che, diciamo, Hotel California ci somiglia un po', pare che i due gruppi nel 72 abbiano suonato insieme, no? Mm. Allora, su Jethro Tull tutti conosciamo Bure, che è un pezzo famoso, insomma. Ma c'è questa We Used to Know che, se la ascoltate, provate a sentirla bene. Provate a sentirla bene. Se non ci sono migliorate il California, pochino, Sì, questa è stata il California. No. Qui variamo. Mettiamo il pezzo di Jethro. Perché non vuole ammetterlo. No. Io lo ammetto, ci perché le beate. Non voglio incontrare. No. Siete voi i guru della musica rock. Insomma. No, però c'è qualcuno che ha detto: voi ridete, però il pezzo è bellissimo. E sì, quindi... sì, no, per carità, nessun noi non ridiamo per il pezzo. Grazie, Loredana, ti abbraccio forte. Non ridiamo per il pezzo. E per la costruzione del pezzo stesso. Ecco, provate a sentire questo. Facciamo che è sempre quello. Che è sempre questo. Sì. Facci sentire Jethro Tull. Va bene. Facci sentire Jethro Tull. Ok. Whenever I get to feel this way, I had to find new words to say. A thing about the bad old days. We used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Then to revisit stony grounds. We used to know. Remembering mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. We'll be right back. while in the bush the others land. Take what we can before the man says it's time to go. Each to his own way, I'll go mine. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know. Dai, ma fai apposta, no, ma... qualcuno mi ha detto puoi continuare ad ascoltarli, quindi... No, io e Gianluca parlavamo della struttura. La struttura è identica, caro Agostino. Non discuto. È identica, c'è poco da fare. Sì, esasperata in certi versi, ma è identica, c'è poco... È lo scheletro. È lo scheletro, è identico. Poi cambia, c'è la solo della auto. Ragazzi, beh, questo è stato scritto nel 1969. Un po' prima di Hotel California. Un pochino un pochettino prima. Per carità, capita tutto, anche il buon buon. Comunque io vi consiglio di ascoltare Hotel California in versione live acustico, che è qualcosa di fantastico. Ho ascoltato anche quella. Ecco, quello è qualcosa di eccezionale. Quel pezzo lì in versione acustica, appunto. Certo. Il From the Easer, se non sbaglio il titolo. Del Freeze is Over. Esatto, ecco. Grazie Gianluca. È un disco bellissimo, stupendo. E a proposito di non scoperzature, di riferimenti, il buon George Harrison quella volta, He's My Fine, Sweet Lord. My Sweet Lord, He's Fine, ha pagato... Ho dovuto comprare l'edizione. Esatto, di... ha pagato un po' di soldi per quel giorno. Per quel... Lui ha detto di si è ispirato a un suono che sentiva dentro la mente. Ma allora, io ho saputo che Dylan Bramlett, chitarrista di Dylan Bonney, gli aveva insegnato a suonare slide. Poi un giorno gli chiese, mi insegna a scrivere un gospel. E forse anche quello, perché voglio dire, le due canzoni si somigliano, però... Può capitare. Le radici sono quelle, sì, può capitare. Radici musicali, quindi non stiamo lì a discutere scoppiazzatura o non scoppiazzatura. No, noi abbiamo, giustamente tu Gianluca mi hai fatto sentire, una vicinanza, possiamo dire così, una vicinanza. Sì, sì, una vicinanza. Una vicinanza. Abbiamo ancora, abbiamo deciso di mettere su questa scuola. Un altro gruppo, un gruppo che ancora vende moltissimo. Grande roccaforte in un'istituzione in Inghilterra, un'altra delle grandi istituzioni, bistrattati dalla critica, perché dicono che fanno una canzone uguale identica all'altra. È vero, dicono la critica, ma non dicono, importa. Però non hanno ascoltato probabilmente i primi dischi, quelli più psichedelici, o i primi dischi hard boogie. Io non ho scelto però questi, cioè gli status quo, i primi status quo, ho scelto gli status quo quando hanno cominciato a fare le famose canzoni, diciamo, di successo. E ho scelto proprio un disco del 75 e una canzone che fatalità mi è capitata di sentire quando eravamo a Stratford upon Avon. Alla sera, invece di dare il Grande Fratello, alla BBC danno Top of the Pops del 1976. Bella cosa. È un altro mondo, no? Un altro mondo. E da questo disco, Blue for You, che oggi si parla tanto di sponsorizzazione nella musica, gli Status Quo sono stati il primo gruppo a firmare un contratto di sponsorizzazione, in questo caso con una nota marca di jeans. Esattamente. Infatti, nella copertina sono vestiti di jeans. Vero? E il pezzo è trascinante, a parte il bordone iniziale, e si intitola Mystery Song. Non ascoltate sempre Whatever You Want, non soffermatevi sempre alla stessa canzone, ascoltiamo qualcos'altro che è sicuramente trascinante. Ok, allora cosa volete ascoltare? Mystery Song, il Status Quo, e dopo parliamo con Fabio. Se volete dirci qualcos'altro, perché mi avete messo un po' in difficoltà. Allora adesso no. Possiamo dire qualcosa oggi degli status quo? Sì, gli unici membri rimasti sono Francis Rossi, il chitarrista, e Rick Parfitt, l'altro chitarrista, membri fondatori della formazione e unici rimasti. Recentemente sono stati criticati alcuni anni fa perché dicevano che le loro canzoni non arrivano oltre al terzo accordo. Cosa hanno fatto? Prima del recente disco Quid Pro Quo hanno intitolato il disco alla ricerca del quarto accordo. Perfetto. Tanto per non prendersi sul serio. Siamo pronti, Agostino? Siamo prontissimi. Mystery Song tratto dal disco Blue for You 1975. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Peccato. Abbiamo finito. Allora, sono le 23.57, se veramente abbiamo finito sul serio, ci lasciamo giusto lo spazio per l'ultima canzone che ce ne parla fra poco Fabio. Ok, The Sun Goes Down da uno degli innumerevoli live dei Thin Lizzy, non so dire, non mi ricordo sul titolo del live preciso ufficiale. Live and Dangerous? No, BBC no. Radio 1 Live. Perfetto, BBC quello lì, Session. BBC Session. Un brano dei meno conosciuti, proprio quello l'ho scelto, ed è particolarmente bello anche perché è presente uno dei chitarristi che io amo in assoluto, torniamo sul tema chitarristico, mi dispiace, John Sykes, che ha militato in varie band tra cui appunto i Thin Lizzy, che gli hanno dato molto successo, e i Whitesnake dopo, e i Tiger of Pantang. Sì, vabbè, insomma, non era il momento non c'è tempo di fare tutta la storia. Okay. Io vi do un appuntamento assieme al mio nonnetto fedele compagno di tante avventure. Nonno Rock. Nonno Rock, sì. Si chiama Mauri, veramente. Nonno Mauri. A domani sera alle ore 21 con tutt'altro genere di musica. Mm-hmm. Andiamo in Friuli con la musica dialettale. Sì, una cantatrice. Cantatrice che canta sia in dialetto che in italiano. Si chiama Elsa Martin. Quindi vi aspetto domani sera dalle ore 21 per questo live, concerto live dal giovedì, in mia compagnia e compagnia di Maurizio. Io ringrazio Gianluca e Fabio perché siete venuti qui questa sera, siete pozzi di conoscenza. Io pensavo di aver conosciuto tutto con Maurizio, invece scopro anche le persone che sanno moltissimo di questa musica rock. Grazie ancora di cuore di essere venuti qui questa grazie sera. Grazie ancora. Bene, grazie a tutti e al prossimo anno. Certo. Un altro appuntamento, un'altra estate, 2013, sempre nell'ambito del rock. L'estate del rock ci sono sempre, però l'appuntamento si può fare. Gil dice che sei grandissimo. Ringrazio Gil. Ringrazio a tutti, anche se non sono un grandissimo amante dello special rock. Maurizio, grandissimo, altrettanto gli ospiti. Grazie. Dopo con Gil ci sentiamo domani. Sì. Quanto gli hai dato? Dì la verità. Confessa, ti vedo. Va bene. Allora ci salutiamo appunto con I Thin Lizzy, The Sun Goes Down. Buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Ciao. Ciao. A te. Ciao. Tries her best to leave him, but she is still captured by his spell. now, she must deceive him. He knows this all too well. She comes and goes, she comes and won't someone save the sinner?